Mi sembra strano che da 90 non tocchi palla, cara Carla. Cioè, da 90 non vedi un uomo nemmeno col binocolo. Allora, sentimi bene, bene. Dimmi. Io te ti ho visto per televisione. Beh, sì, allora? Io con uno come te, ma neanche. Ma con chi ce l'ha? Con te, però. Con me, sì, ma neanche se. Me lo puoi vedere. Ma ce l'hai con me o con Parenzo? Non ho capito. Con tutti e due. Insomma, l'hai visto pure Parenzo? Siete due mostri. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, come al solito ieri sera mentre lavoravo ascoltavo la zanzara in cuffia. E un mio collega che di solito ascolta musica di merda, radio di merda, mi fa: Luigi, ma che ascolti tu in cuffia? Faccio io: come? Non lo sai? La zanzara, prova anche tu. Lui fa: no, mi hanno detto che è un po' sconcia, non so, non saprei. Faccio: prova, fidati, prova. Lo convinco, appena mette sulla zanzara una nuova luce nei suoi occhi. L'ho infettato, siamo al top. Lavorare ora, si ascolta la zanzara, evviva Cruciani, te Paolo che ne pensi? Sì, è un po' antifatico. Ma che antifatico? Sei un parenziano? No, lui sta proprio sicuro. Ma no, non si può, andiamo ragazzi! Allora, caro David, eccoci chi è qua. L'uomo che ha contro l'Unione Europea? L'ONU, la Merkel, Soros, il finanziere Soros, amico tuo. Sì, ottimo, sono cantanti, bravo. Attori, Zuckerberg, Starbucks, poi parliamo anche di Starbucks, eh. Starbucks, radical chic di tutti i tipi, mezzo mondo islamico. Chi è l'uomo che ha contro tutti questi signori? Quel chi simpatico è? E grottesco dimmelo miliardario tu. Immobiliarista che è diventato, sì, da un multimiliardario, sì, certo, eccentrico con, sì, un attico pazzesco di dubbio gusto, sì, l'eroe della middle class americana, sì, l'eroe dei poveracci che vivono nel profondo dell'America e che vedono in lui, certo, il sicuramente, e che vedono in lui il salvatore, il futuro. Make allora? America great again, Donald Trump. Come si fa a non volere bene a uno che ha contro tutti questi signori qui? Come si fa a non volerli bene? Cioè, a me basta poco per volere bene ad una persona. Basta perché pochissimo. Tu sei inserito nel mainstream. Basta mio. Pochissimo. Tu sei inserito nei luoghi comuni. Ma il fatto che abbia contro tutte queste persone. Sei impastato dai luoghi comuni. È il contrario, comunque. No, sei inserito nel mainstream. Oggi essere contro Trump vuol dire, sì, appunto essere una minoranza snob, vai, schifosa, sei radical chic, ricchi che bevono champagne. Ma andate a quel paese, andate. A proposito, sentiamo, hai detto sentiamo oggi, insieme al professor Borghi, sì, professor, sì, Borghi, ho visto, economista, sì, e anche, come dire, consigliere regionale in Toscana, uomo legaiolo, legaiolo, cioè esponente della Lega, legaiolo. Se esci dall'euro col cavolo, sì, che vendi il prosciutto di Parma, sì, all'estero. Era un esempio, era. Se esci dall'euro col era cavolo che vendi prosciutto di Parma all'estero. Salame, per rimanere in materia di prosciutti, sentiamo. Era un esempio per dire che se metti i dazi, no, vabbè, comunque non frega niente. Flash per l'amico Borghi che va sempre, dice di stare dalla parte degli agricoltori. Prendiamo un prodotto conosciutissimo, il prosciutto di Parma, export più 3,9%, uno dei mercati più in crescita, oh, pari, signora, a 100.000 prosciutti complessivamente venduti fuori dall'Italia, sono stati, allora, venduti 2.724.000 prosciutti. Per uno, sì, il prosciutto, il maiale, quello che io non mangio perché sono ebreo, ovviamente, quindi non me ne frega niente, non è che faccio pubblicità al maiale. Però provo lo dico vedere, all'amico Borghi, questo prosciutto, questo vaglio la spiegare. spiegare agli, ai tuoi amici agricoltori quando vai a chiedergli il voto, dici no, guardate che da ora il prosciutto di Parma, eccellenza italiana, col cavolo che lo vai a vendere all'estero. Avevi detto che non era zanzara. Col cavolo che lo vendi all'estero. Allora, intanto Salvini dice no, non c'è bisogno di spiegare, poi spiegheremo tutte queste cose. Salvini, capisco chi vota Mussolini, chi vuole votare Mussolini oggi, senti. Non c'è Mussolini. Non la spaventa però la gente che dice sì, io rivoterei Mussolini oggi. Non le fa un po' impressione? No, li capisco. Li capisco e posso solo dire che la violenza non ha mai apportato a nulla di buono, né mai porterà a nulla di buono, però non uomini forti, ma idee forti e soprattutto applicare quello che si promette prima di prendere il voto, come sta facendo Trump, è un impegno che io mi sento in grado di prendere, di sottoscrivere e di firmare. Allora, nel pomeriggio lo stesso Salvini ha rilanciato la questione della castrazione chimica, caro David, la castrazione chimica. Perché un migrante ha sequestrato e violentato un'operatrice in un centro di accoglienza, prima era stato detto violentato, in realtà non l'ha violentata. Migrante sequestra e violenta operatrice in un centro di accoglienza, arrestato nel napoletano. Un nigeriano di 25 anni che pare che non scopasse da 2-3 anni, così sostiene, ma non è che lo sostengo io, eh. Questa donna di Napoli poi ha detto che in realtà non è stata violentata. Subito Salvini ha detto, ha scritto, bisogna fare la castrazione chimica, sì, con sì. Saviano che gli ha risposto, sei uno sciacallo, mi fai schifo. Sentiamo la donna di Napoli. Io stavo nel mio ufficio, lui è venuto, mi guardava, mi osservava e dei ragazzi mi salutavano e lui diceva perché ti stanno salutando. Poi all'improvviso, dopo una mezz'oretta tutto questo, mi ha chiuso la porta. Mi ha chiuso la porta mettendo fuori i suoi genitali. Quindi sono rimasta dentro con lui quasi mezz'ora. Entrato solamente dicendo perché questo ti saluta, perché quello non ti saluta, queste cose qua. Poi ha detto il mio documento dov'è? Dico guarda che il tuo documento è scaduto oggi, noi domani facciamo tutto. Quindi era una vicenda legata ai documenti, come se volesse minacciarla? Sì, io a quel momento sì, però quando ho visto che si è svestito poi, mettendo queste cose. Quella mezz'ora lui mi teneva sequestrato con cose sue e basta, diceva che lui non aveva donna da 3 anni, da 2 anni, tutte queste cose qua, mi la pigliavo alla leggera, non è che ero tanto preoccupato, che non è... però rimanendo sequestrata là dentro con la porta chiusa. Allora, ragazzi, sentite adesso quello che dice la signora Leosini. Sai chi è la signora Leosini, Parezzo? Come no, la grande Franca Leosini, certo, esatto. Conduttrice su Rai 3 di quello straordinario programma che si chiama Storie Maledette. Benissimo. Le interviste. Molto bene, cioè, molto bene, molto bene. Ottima. La signora Leosini, la signora Leosini dice, espone. Ottima. Vabbè, ho capito, adesso non è che devi leccare il culo continuamente pure alla Leosini. Ma che bisogno? Ma continuamente, dico, straordinario è molto programma. Ottimo, ottimo, basta. Mi sono permesso di dire che è un ottimo programma. Ma c'è una, parli male di una persona, sì, dei leghisti tu. Parli male di altre persone, parli male della zanzara dei leghisti. C'è un programma tutti prodotto, sono straordinari, prodotto c'è la Leosini, indegno, prodotto, meraviglioso la Leosini. Ecco, non mi piace, ad esempio, cos'è che non mi piace molto? No, stai tranquillo un attimo. No, ci penso un attimo. Senti, se fosse, ecco, Geo e Gea forse non l'ho mai visto. Dai. L'hai visto tu Geo e Gea? No, senti, non rompere, no, non l'ho visto, dai. Leosini su Napoli. Sì, allora, sentiamo la Leosini. I genitori uccisi capita solo al nord, dice. Sai, c'è quel caso, no, dei genitori, sì, uccisi, come no, dai due, come che, no, che adesso dicono di essere omosessuali e che sono, che hanno ucciso i genitori perché non, cioè uno, i genitori di uno perché non accettavano il loro fidanzamento. La Leosini dice che si ammazzano i genitori solamente al nord, non al sud. Bah. Se noi esaminiamo tutti i casi di omicidi a danno dei genitori, sono tutte vicende che si sono verificate al nord. Cominciare da Maso, a Damaso, Carretta, no, al sud si Erica, fanno le stese. Ecco, tu giustamente facevi allusione a questa, alla camorra, della paranza di camorra, insomma. Sì. Cioè, sono ragazzi che praticamente vivono una dimensione di violenza senza limiti, però i genitori non si toccano. Adamurimamma. Gentilini. Tra, per me è una cazzata sta cosa qua, che i genitori non si toccano al sud, cioè non, ci saranno sicuramente degli esempi. Comunque la Leosini, per carità, avrà fatto delle statistiche, eccetera. Ma secondo me no, diceva una cioè, cosa, i genitori un dato... non si toccano, mentre al nord... Al nord no, c'è un altro tipo di criminalità, forse. Dice, dava un dato statistico di cronaca. Dai, è una cazzata, dai. No, ma effettivamente ti viene, adesso lascia stare, può sbagliare anche lei, ovviamente. Ma ti viene in mente un caso di cronaca di genitori ammazzati al sud, oggettivamente? Ma non lo so, magari ci sono sicuramente, magari meno eclatanti, ma ci sono. Per me è una cazzata. Per me è una cazzata. Ma hai una controprova? Ma non lo so, adesso non ce l'ho, su sotto mano non ce l'ho, vediamo. Chiudi qua. Ho detto, allora, basta. Che vuol dire chiudi qua? No, una buona occasione per chiudere, ma dai. No, non sai cosa dire, chiudi la trasmissione. È vero, io lo so. Bellissimo. Vabbè. Così, chiusa la trasmissione. Gentilini. Sì. Trump ha preso da me. Io voglio che la città di Treviso torni a risplendere in tutto il mondo. È scritto anche a Trump, Donald sì, Trump. Sì, ho scritto a Trump e ho visto che Trump continua ad essere mio sceriffino anche con i provvedimenti che ha fatto adesso, perché ha chiuso i confini come io lo avevo richiesto nel 1994 e 95. Pensa quanti anni, 22 anni fa io dicevo le cose che adesso Trump porta a termine. Quindi Treviso ha bisogno di un Gentilini Trump. Tutto finito, ragazzi, tutto finito. Ed ora traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento La Zanzara. Donaldone, non mollare, sbarcare in America non è un diritto, è un privilegio, grande Donald! Allora ragazzi, so che il tema di D'Alema non vi piace, del PD, della politica, nemmeno a me, me ne sbatto altamente i coglioni. Tema però importante. Ma oggi, no, non è importante, non me ne frega assolutamente nulla, né del congresso del PD, né delle manovre interne al Partito Democratico, né della legge elettorale, cioè, mi interessa solamente quando viene varata e si trova un accordo. Della strage di Viareggio ti interesserà? Beh, sì, della condanna a 7 anni per Moretti? Cosa quello pensi ieri tu ad esempio di questo? Ma no, non adesso, abbiamo dopo. Ne parleremo di sì, questo, no, di un manager forse, pubblico può darsi, autorevole cioè, che si deve dimettere o no, si deve dimettere. Bravo, questa è la ciccia, dai, su, questa è la sostanza. Ma ne parliamo dopo, dalle 21 in poi, dai. No, è finita la trasmissione. D'Alema, prima e dopo. Allora, praticamente, prima del referendum diceva: comunque io torno a fare il presidente della fondazione, certo, non mi occuperò più di politica. Sentiamo. Io sono comunque vado a finire, che vinca il sì, che vinca il no, quando finisce questa campagna elettorale tornerò pienamente al mio lavoro, che è quello di presiedere la Fondazione Culturale dei Socialisti Europei a Bruxelles. D'Alema oggi. Suggerirei che oltre a raccogliere adesioni, i singoli comitati raccolgano fondi. Vogliamo che i comitati siano in grado di lavorare e siano pronti alle evenienze che potranno essere. Allora andiamo, Francesco dalla provincia di Roma, dai. Francesco, vai. Sì, ciao ragazzi. Sì, sì. Due cose come cioè praticamente come Renzi, no? Me ne vado dalla politica, eccetera, eccetera. Se vabbè, il referendum... ma questo è un classico dei politici, dai. No, per carità, però registriamolo, però facciamolo sentire, no? Facciamolo, sì, no, hai fatto diciamolo benissimo, è giusto, diciamo, assolutamente. D'Alema diceva, dopo torno a fare la mia fondazione, al mio sì, lavoro a Bruxelles, dai, ma è eccetera un grande classico. Oggi vuole fare politici la scissione del Partito Democratico. Sì, no, va bene, è un grande classico, però diciamolo, no? Diciamolo. Ma fai come benissimo, direbbe, ma sono d'accordo con lui, te, diciamolo, certo. Diciamolo. Francesco, provincia di Roma, dai. Sì, ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Dimmi. No, allora, innanzitutto in merito ciao, a quelli che offrono piccolo cane, i passeggini per cane, giacchetta, io direi che fanno bene a venderli e devono costare pure cari per cosa? Quei coglioni che se li comprano. Sì. Tutti gli optional per i cani, lo psicologo per il cane, fra un po' c'era anche quello che fa le sighe ai cani, ma fanno bene a farlo sto lavoro. Fanno bene a to, c'è gente veramente il cogliona. Sesso dei cani, interessante questa cosa però. Cioè, sì, ma la sessualità, cavalli, la sessualità canina, sicuramente qualcuno si inventa qualcosa. Ma guarda che lo fanno i cavalli. Sì, vabbè, quindi capito, come fanno bene a vendere queste stronzate, perché sono talmente tanti coglioni che trattano gli animali come cristiani, che fanno bene a vendere queste stronzate, e quindi se li comprano col sorriso, e allora devono costare tanto. Poi? Ecco, e questo mi sembra un punto importante. Ci ho detto. Bello figo a Roma me l'hanno cancellato, poi spostato a Fiumicino. Forse, non si sa. No, ma lo fanno. Ma comunque quello voglio dire che quei quattro coglioni di neofascisti che hanno baccagliato per farlo spostare, anzi per farlo annullare, sì. Ma quelli sono i primi che rosicano, sono i primi che li levano argomenti sui negri. Sì, no, Francesco, ma il punto non è quello. Il punto è che, secondo me, da parte di questi che organizzano i concerti di Bellofigo c'è anche un po' di vigliaccheria, perché organizzi un concerto, che cosa hai paura? Beh, però se ti senti minacciato... Ma quelli hanno paura che gli fanno il casino. Ma prima vogliono sbigliettare, e questo è legittimo. Poi se cagano un po' sotto, appena quattro coglioni... Ma non è quello, ma sono quattro... Sono quattro teste di cazzo, sono quattro teste di cazzo... Che gli frega, che Bellofigo gli ha fregato gli argomenti, quindi non vedevano l'ora di star bar a dire sì, faccetta nera e c'hanno il wifi, e quelli gli ha fregati. Vabbè, ciao Claudio, Roma, vai. Sì, Claudio, Como, dimmi. No, Roma. Sì. Ciao. Come? No, Como, no, Roma. Claudio da Como, bene, vai. Perfetto, no, volevo dirti soltanto, per quanto riguarda il muro tra Stati Uniti e Messico. Sì. Cioè, le proteste mi sembrano una cosa veramente assurda e assolutamente illogica. Perché? Cioè, perché è una misura difensiva, non è che ha messo un campo minato, a parte il fatto che ha... Sì, però amico mio, adesso, siccome se ne parla da giorni, forse anche da mesi che l'ha promesso in campagna elettorale, che cos'hai di nuovo da riferirci? Cos'hai di nuovo da dirci? Che sei contrario a questo muro? Sei favorevole a questo muro? Sei contro queste proteste? Che cos'hai da dirci? Sono contro queste proteste perché mi sembrano assolutamente illogiche. Illogiche. Cosa che nessuno ha sottolineato. Illogiche. Cioè, perché sarebbero illogiche? Spiegami. Perché? Allora, no, è troppo lungo, amico mio. È troppo lungo. Giovanni da Ferrara. Ciao. Giovanni da Ferrara, vai. Pronto, Giuseppe? Dimmi. Ascolta, volevo dirti un paio di cose su quell'episodio della tigre, no? Sì. Uccisa. Sì. Allora, lo so che non saremo d'accordo, però l'aggressività di quella tigre dipende dalla cattività in cui lei vive, no? Sì, ma è lo zoo, amico mio. Ma che c'è? Lo so, è un posto che andrebbe chiuso. Comunque, ma per te andrebbe chiuso, per me no, gli zoo sono straordinari. Okay, lo so, ma scherzi, lo so, lo so che non siamo d'accordo. Ma se non ti piace lo zoo, non si capisce perché, cioè, chi è contro lo zoo? Cioè, non lo fa per difendere gli animali, lo fa perché ha delle pulsioni interiori, tipo di frustrazione. Per gli animali stanno bene allo zoo come possono stare in cattività, spesso si massacrano tra, cioè in cattività, in libertà, si massacrano tra di loro. Sono i peggiori assassini gli animali. Serviti, riveriti. Dai, però su. Volevo dirti una cosa in particolare a David, no? Sì, eccoci qua. Prego. Allora, David dice sempre che qui chiamano cialtroni, ignoranti, no? Sì, gli ascoltatori no, quelli che chiamano, gli ascoltatori sono avanti. Allora? Ascolta, volevo dirti solo una cosa. Sì. Però l'altra sera l'hai fatto un po' tu questa figura qua, no? Dicendo che porti figli allo zoo, gli zoo sono posti bellissimi. Certo. Vabbè, allora? Proprio tu, David. Sì. Che significa? Nel diritto ebraico, nella Torah, si può portare i figli allo zoo, non c'è scritto lì. Ma sono sì, certo. Al primo posto. Ma non dire puttanate, dai. Cioè, è così. Sì, ma non dire puttanate. Sì, è vero, ma non viene... David, mi confermi. Senti, sì, è vero, ma non viene violato nessun diritto dell'animale. Noi siamo a favore degli zoo, chiaro? Siamo a favore degli zoo perché l'animale può stare tranquillamente in cattività. Io ripeto ancora una volta: l'animale è al servizio dell'uomo. È diverso, noi siamo i padroni, gli animali sono al nostro servigio, chiaro animalisti? Sono al nostro servigio, chiaro, poi ci sono le leggi sul maltrattamento, quello che è. Ormai siamo civilissimi da questo punto di vista, anche troppo, però sono al nostro esclusivo servizio, perché sono animali, sono bellissimi, ma sono animali. Pronto? Le spurgofogne? Ah no? È la zanzara? Ah beh, è lo stesso. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele da renetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Deborah, ci sei? Sì, ma ho un dolorino un po' qua dietro al collo. Perfetto, cadio e fagiolo tempismo, magnifico perché a febbraio Cuore Denari è il mese delle articolazioni. Il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, ma anche docente all'Università degli Studi di Milano, ti rimetterà sicuramente a posto e soprattutto ci farà capire se ti lamenti di gamba buona. Mi sento già meglio, però mi è rimasto un po' di bruciorino di stomaco. Ma Deborah, dai, ce l'hai tutte tu. Dai, ascolta Cuore Denari, ogni mese un consiglio per investire in salute. La Zanzara. Senti Maurizio, ti volevo dire una cosa. Questa agenzia di viaggi è molto bella, per carità, belle locandine, le cartine geografiche, bei viaggi, veniamo, bellissima. Però adesso basta, chiudiamola qui. Sono venuto a lavorare alle 9, alle 9.05, chiudiamo qui tutto, basta, a posto. Chiudiamo all'apice della grandezza, che ne dici? Ma vaffanculo, va. Ma come, l'ha detto Parenzo? E chi se ne ha fatto? Ma che cazzo ci fa quel coglione di Parenzo a sparare minchiate alla trasmissione di La 7 alle 9.05? Spara di quelle cagate che bisognerebbe prenderlo a badilati in faccia. Ma come si fa a dire ste stronzate? L'operaio tedesco prende di più, con l'italiano prende di meno, e non è che se torniamo la lira l'italiano prende di più. Ma vai a fare in culo, idiota, che l'operaio italiano non esiste più grazie ai tuoi amici ebrei lobbisti. Pezzo di coglione, se ti becco ti riempio di legnate, stronzo. L'analisi di Mauro da Mantova. Sì, lo sento un po' sottotono però. Cioè, no, mi non dire così, non dire così che poi si presenta. Un po', è quasi sottotono, malato, un po'. Ma come malato? No, non è più sì, il è stato solito. In ospedale, è stato in ospedale. Cioè, eh, non è più il. Senti che? È più un. Sai che c'è? Sì, cioè, dici, capito? Non è un più po' aggressivo di note... come sai un tempo. Che c'è? Sai che c'è? È cioè, stato non può lui. Più. Ah, tu cioè, dici un po' di messo, miagola, un po' di miagolatore, così tutto miagola, miagola. Miagola, miagola, miagola. Non è che è schiumoso di rabbia, non ha più quella bava alla bocca. Cioè, come tu dici, tra lui e Donato non c'è paragone tra lui e Donato. Beh, no, Donato, certo, Donato probabilmente cioè, un rischia, altro livello. Un altro livello, rischia sicuramente un infarto in diretta, un ictus, qualcosa di simile, urlando in quel modo. Mentre l'altro lo vedo proprio. Dimesso. Miagolatore, cioè, capito, sta male. Non so, non vorrei, per carità. Cioè, non c'è più carità. Il solito attacco a De Benedetti, no, queste cose qua. No. Moscio. Ragazzi, anche la Chiesa contro Trump, anche il Vaticano contro Trump. Io veramente non ce la faccio più. Anche il Vaticano. Uno si dovrebbe mettere una medaglia. Se il Vaticano ti attacca, uno dovrebbe dire: bene, ho anche questa medaglia qui. Ho anche questa. Chi è che ha parlato oggi? Un tizio del Vaticano, che cos'è che ha detto che ci preoccupa la politica di Trump sui rifugiati? Capito? La Chiesa, con tutti i problemi che ha, è preoccupata da Trump. Roba da pazzi, ragazzi, è roba da matti. Se uno non l'ascolta certe cose, non ci crede. C'è la Chiesa, parla un tizio che si chiama Becciu, Monsignor Becciu, certo, ma che dici? Ma non un tizio, ma chi ragazzi, cazzo è sto Becciu? Ma ragazzi, ma Monsignor Becciu, ma dai, chi è? Ma che ma di chi cosa è? Hai parlato? Monsignor... È un quispo de popolo qualsiasi, un signore chi l'ha nominato? Ma come di chi è? Prodotto di cosa Becciu? L'ho eletto io? Ho votato io? No. Ma l'hanno, Becciu, l'hanno nominato è... quattro signori riuniti in tonaca, ma quattro signori, noi dobbiamo dare retta a un tizio che si chiama Becciu. Ma non è un tizio, Monsignor è il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato Vaticano. Ma perché io devo dare retta? Attento alla dicitura. Il sostituto. Abbiamo già fatto mezza trasmissione. Se diciamo il titolo che ha Becciu, abbiamo fatto già mezza trasmissione. Esatto, il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato Vaticano. Senti quanto è lungo. Sostituto. Io vorrei anche essere anch'io il sostituto per gli affari generali della Zanzara. Bellissimo. Ma perché diamo così retta a quello che dicono questi signori? Ma questi signori, comunque, è il Vaticano. Vaticano. Ma non chi è... se ne frega? Ma chi l'hanno messo? Quella cosa che si chiama Vaticano. Sì, ho capito. Ma una chi cosa è che secolare, amico sì, ma mio. Chi l'ha Vaticano messo lì? Chi lo ha messo lì? Chi l'ha messo lì? Ci sono elezioni, ci sono nomine, c'è una democrazia. No, è una vabbè, sorta. Adesso... Beh, ho capito, ma è questa la realtà. Cioè, la realtà è questa. Ci sono dei signori che si riuniscono quando muore un papa dentro un posto, arriva lo Spirito Santo e nominano un papa. Però, amico mio, Dio non può essere sottoposto al referendum. No, ma ho Dio capito. Non lo puoi, non dai, puoi fare come io la, dovrei come dare Grillo, retta a quello che dice un tizio del genere, Monsignor Becciu. Dai. Ma non devi dare retta, cioè, dovrei prendere sul serio quello che dice un signore. Ma come che si non, beh, non è un signore che qualunque, espressione come... non so, di non so che cosa, il dello Spirito Santo per gli affari generali della segretaria di Stato Vaticano. Dello Spirito Santo, io dovrei dare retta a uno che è espressione dello Spirito Santo. Vabbè, d'accordo, se vogliamo prenderlo sul serio, no, vabbè, prendiamolo adesso sul serio. Sentiamo questo Becciu, uno che è l'espressione dello, come no, perché deriva tutte nomine del Papa, no? Siccome il Papa deriva dallo Spirito Santo. Sì, no, è stato nominato, no, grazie anche all'intervento del, esatto, del, dello sicuramente. Beh, adesso... io, però a me, dai, io sono, come su, ho detto più volte, di un'altra parrocchia, appunto, di un'altra. Appunto. Quindi non è che devo difendere che quella, pure, quella che cosa. Eppure ha le sue stranezze, anche quella parrocchia no, lì. No, nessuna perché stranezza, anche perché noi lì ci sono delle cose poco no, comprensibili. No, non c'è comunque un potere spirituale, un potere no, temporale bene, da bene, noi. Bene. Da noi i nostri preti, i nostri rabbini, che non sono l'amore di Medici, sì, possono fare l'amore. Anzi, hanno il dovere i nostri rabbini. Di far l'amore, lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Di fare i figli, siamo, hanno il dovere di far l'amore. Un filone sui rabbini che scoprono il sesso, no, i ma rabbini. Tutti, ma tutti, è un dovere, è un dovere far, bene, far l'amore. Molto bene. Anzi, se vuoi sapere di più, c'è scritto nella Torah che addirittura è un dovere far star bene la propria compagna, la propria moglie. È un molto dovere. Bene, la moglie può chiedere l'allontanamento del marito allorquando lei non fosse soddisfatta sessualmente. Stai dicendo che i rabbini scopano tantissimo. Sto dicendo, no, che generale, nel testo com'è sacro, media, cioè com'è nella media, Torah, com'è la media? Beh, hanno tanti figli e è un loro dovere, in particolare di sabato, darsi molto da bene fare. Comunque, sentiamo questo Becciu, vale, che okay dobbiamo fare? Sentiamo sto Becciu che critica Trump. Dimmi te se uno Trump è eletto, gli americani, cioè, deve sentire uno in tonaca espressione dello tonaca, Spirito Santo. Adesso me l'ho messa vabbè, così, sembra veramente una cosa brutta. C'è gente che dà retta a questo Becciu. Ma c'è gente, ma è Vaticano, dai, su. Becciu, avanti. Lei è preoccupato personalmente di questa costruzione di muri, di questa politica dell'immigrazione? Parliamo ovviamente degli Stati Uniti e di Trump. Beh, certamente la preoccupazione c'è. La preoccupazione c'è perché noi siamo i messaggeri di un'altra cultura, è quella dell'apertura, seppure il Papa insiste anche sulla capacità di integrare chi arriva, chi viene nella nostra società. Noi siamo i messaggeri di un'altra cultura. A me piacciono molto anche le domande. Sì, che fanno, sono molto. Sì, sono le domande molto, sono molto. Sì, ma sono sperzanti, no? Sono lei sperzanti. È davvero preoccupato per quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Ma non è posta in modo violento come te. Allora, dai, Becciu, su, forza! Ma non ne frega niente, Becciu, Becciu, dai! No, andiamo lutto anche sul Papa, lutto anche sul Papa. Noi pensa. Questi tipi di atteggiamenti, sai, buonisti, tirare fuori questa cosa, come il Papa che ha perso un'ottima occasione di stare zitto. Lei dice il che Papa è buonista? A Hitler. Ragazzi miei, noi ragazzi pensa miei, che uomo bianco che siede in Vaticano con quel vestito è grande pericolo per democracy. So we talk with FBI and CIA e Guardia e deciso che forse con piccolo bombardamento ma di no, quel piccolo no, stato no, inesistente no. si possa risolvere bombs, il problema. Bombs. Lei dice bombs. Little bombs, of course, little bombs in Vatican e risolve il problema. Quel uomo molto pericoloso, veste bianco, va a Lampedusa, e alza dice, mani sì, e fa venire migranti. Questo costituisce grave problema, come Camusso, CGL è altro grave, uguale problema italiano, e Camusso è uomo vestito di bianco, Camusso è altro uomo di sindacato, questo Landino che ma crea problemi, più, scioperi da meglio appunto, abbiamo bombardato Landino e crea problemi Landini, dappertutto, Landini. Landino, Landino, il problema di Democracy Italia è il sindacato che blocca tutti. Allora ragazzi, ma oggi è la notizia più straordinaria prima di sì tornare. È l'articolo di Ezio Mauro, l'Occidente no, no, no, che no, va no, in minoranza. No, so zitto che vuoi parlare di questo. No, no, stai no, zitto. Non allora, voglio, senti articolo questa cosa. Trump, sì, due punti. Re dei Rom, costruiamo noi il muro. Ti giuro, non è finto. Non è interessante finto. L'autoproclamatosi re dei Rom, un tale che si chiama Dorin Choaba, dalla Romania, intende scrivere una lettera al presidente americano Trump, beh, proponendogli la possibilità di far costruire il muro di separazione tra gli Stati Uniti e il Messico a una squadra di Rom. Beh, ho pensato di fargli un'offerta. Sì. Sappiamo che il presidente americano è molto determinato nelle sue decisioni che costruirà quel muro. Noi siamo 18 milioni in tutto il mondo. Cazzo, i Rom sono 18 milioni in tutto il mondo. Pochi, cioè, puttana Eva, 18 milioni in tutto il mondo, cioè, a toccarsi ovunque, ogni tanto giri per strada, mani sulle tasche. Ecco, però lo sapevo, ecco il razzistello. Allora, che noi siamo fuori, 18 ecco milioni in tutto il mondo e alcune migliaia vivono proprio in America. Potremmo costruire noi quel muro ad un prezzo molto vantaggioso. Immediata alla reazione dell'ambasciatore americano in Romania, Hans Klemm, che addirittura durante una conferenza stampa si è espresso sull'idea di Choaba. Non posso commentare, posso però dedurre dalle precedenti dichiarazioni che il presidente Trump preferirebbe che a costruire il muro fossero gli americani. Ragazzi, il re dei Rom, costruiamo noi il muro. Va. Allora, Tiziano da Milano, vai, Lorenzo, poi da Pero, Varese, poi c'è un musulmano, mi sembra, al solito, Talbi da Padova. Anzi, no, iniziamo proprio da Talbi, signor Talbi da Padova. Ma mi chiama tante volte Talbi. Talbi, nostro, ma tante volte. Non Crociano, Crociano. Senta. No, dimmi, Talbi, dimmi. Sì, ma vai, fighe, sta bondi, re della radio, porco, maiale. No, stai tranquillo. Porco, maiale, sta bon, sta bon, vedi. Vai a fanculo, comunque aspetta. Ecco, no, aspetta, è integrato, perfettamente integrato. Tu sei no, no, però, Talbi, devi stare tranquillo. L'unica cosa che non puoi fare, che non puoi fare, è che tu hai questo intercalare così strano. Ogni tanto bestemmi. No, non è che bestemmi, dice... No, non bestemmia, perché fa delle imprecazioni. Non bestemmia perché è di un'altra parrocchia, evidentemente. Appunto, anche esatto, lui esatto, è esatto, di una terza parrocchia, né quella del Monsignor Becciu, né quella, no, di Parenzo, la parrocchia muslim musulmana. Esatto. Va benissimo, per carità, non c'è niente non di strano. Non usare quell'intercalare lì, non occorre, ci si capisce, cioè, come dire oi bo. Dici sempre Dio bo, così. Ma quello vuol dire buono, quindi sì, non ho capito, è una bestemmia. Però non è buona questa cosa qua. Vabbè, no. Talbi, vai, vai, parti, vai. Ciao, ciao cugino, come stai? Che fai, cugino di che? Ciao, che hai già intervenuto, che saluti di nuovo. Comunque vai, Talbi. Aspetta un attimo, così saluto, porco maiali, tu Dio. Questo però ha ragione, radio. E avanti. Tu sei il numero uno, tanto per cominciare, e secondo Milan. Detto però questo, perché gli dici numero uno e porco anche? Perché? Beh, è un maiale, Dio, quelli porco che hanno, sì, cosa pensi? Vero, quelli perché porco, sono maiale? Perché sono ma porco? Ancora... Allora, aspetta, a proposito, Crociani, come noi abbiamo la stessa età, ma a te ti tira ancora? A me no, non mi tira più. Scusi, signor Talbi, però, lei perché deve chiamare? Ma aspetta, cugino, aspetta, tra maiali, questo discorso tra maiali, dai, no, aspetta ma, un attimo, scusa, ti tira ancora capito, tu no? Ma perché non ti tira più, Talbi? Quanti anni hai, scusa, Talbi? Come te, 51? No, io ho 50, veramente. Comunque, vabbè, d'accordo. Vabbè, dai, non mi tiro, devo fare 3, 4, 5 alla settimana, ma non di più. Ma cosa? 3, 5 settimane è tantissimo, scusa, non è poco. Sì, trombato. Ma capite, è tantissimo, scusa, Talbi. Ma con la non stessa tira, con, dai, con la moglie. Rispetto prima. Ma con la sì, moglie. Con la moglie, sì, con sì, la moglie. Sì, bravo, sì, bravo, bravo, bravo. Ma perché bravo? No, aspetta, detto questo, dai, far chi devo andare a caricare il camion adesso. Allora, io devi andare il a caricare il camion. Sì, ma tu preghi ogni tanto, dai. Preghi ogni tanto, no? No, la verità no. No, mai. Ma infatti tu non sei musulmano, sei uno così all'acqua di rose, cioè sei sì, vabbè, ogni tanto avrei pregato quando eri più giovane. Vabbè, ma che no, vuoi? No, no, io sono musulmano, veramente, attenzione, sono sì, quello puro musulmano, attenzione. Ma che puro . Musulmano, ma quando mai? Sì, va bene, dai, d'accordo. Picchi tua moglie, per esempio, picchi tua moglie? Ma picchi tua moglie? Non la picchi, anzi, non la picchi. Io picco la moglie. Picchi. Sì, ma porco che me si le mi dà carri dalla mattina alla sera, porcaccia la puttana. Ma che ti dà? Che picco, cos'è che ti dà? Troia vacca. Ma cioè, perché devi donna, dire tipo? Quanto è integrato questo qua? Troia vacca. Cosa dice? Aspetta, devo crociare che vado via, devo subito. Aspetta che te lascio libero. Ieri il musulmano ha detto sì, che quando fai la pus, la pussetta scorreggi, dai, ormai, fa sì, un altro linguaggio che ti piace a te. Quando scorreggi vai a lavarti. Non è vero, cazzo. No, io non tu non sei musulmano. È un tema approfondito, no, da approfondire. Sono musulmano, però quando sì, scorreggi... Sei finto musulmano. No, sono musulmano. Aspetta, quando scorreggi, sì, ti spiego io bene, così tu capisci se non ti prendo ma il tuo non giro ancora, musulmani. Ti ringrazio. Aspetta, sì, Talbi, però. Aspetta, cugino. Ci dobbiamo aspetta, fermare. Ma perché cugino? Ancora con sto Dio no, boh, ce l'ha con me. Quello. Un attimo solo, cugino, dici, cugino ebreo, dici. Sì, perché gli ebrei, sì, esatto. Cugino ebreo, per questo dicevi. Sì, quello ebreo. Sì, sì. Chi è che c'ha il cellulare sotto? Tu, Parenzo, c'hai tu il cellulare acceso sotto? No, non mi pare che è acceso. È che... Sì, sei tu che ce l'hai. Cioè, vicino, è in modalità sposta, aereo. Cazzo. È in modalità aereo. Un attimo, a crucea. In camera ho la tua foto e quando mi sveglio te guardo penso c'è qualcuno che fa più schifo di me. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Ma l'hai capito che grondi merda da quei cazzo di capelli? Lavali, lavali, lavali! Beh no, amico mio, ormai siamo quasi ai tre giorni, eh. Siamo quasi ai tre giorni, caro Parenzo. Tre ma giorni veramente? Senza lavare i capelli. Certo, tre io giorni. Io ogni giorno li lavo. I capelli? Ma sì, guarda sì. Che ti cadono poi, eh. No, no, li ho belli fuori. Io sono arrivato sono a 50 anni con io. I capelli, con i capelli, anche per questo, perché probabilmente li ho sempre lavati poco. Ma io ho un cuoio capelluto poco. Piuttosto duro, resistente. Comunque, quindi... ragazzi, la follia animalista arriva anche a questi punti. C'è una signora che pubblica su Facebook, sui social network, non so dove cazzo l'ha fatto, un annuncio per affittare una camera. Senti, appartamento vegan a San Giovanni a Roma, appartamento vegan e non fumatori, affittabili da tutti, a patto che in casa non entri carne barra pesce, non si fumi. Gay friendly, vegan friendly, 480 spese incluse, eccetera, eccetera. Ti rendi conto o no? Cioè, appartamento vegan e non fumatori, che non fumatori è abbastanza normale, affittabili da tutti a patto che in casa non entri carne, pesce, non si fuma. Vabbè, questo però come se uno chiedesse... Non si fumi è normale. No, appunto, ma dai, non lo trova una stranezza. Come quello dice, no, cani, sì, cani, no. Vabbè, quello non vuole che gli si contamini la cucina, ha diritto, è casa sua, ha diritto non di mettere... Non so mettere se è casa sua, sì, non lo so, sì. Se non è casa sua, ha diritto di mettere le regole che vuole, però. Può anche dire che non vuole... Non vuole ospitare gente che fa dai, la pipì nella vagina. Scusa, su, è una follia. Ma è una follia inaudita. Non dai. Vuole che gli si contami. Oppure può dire qua qui solo gluten free. Cioè, sono allergico. Ma dai, su, ma è una cosa patetica. È come dai. Dire. No, no, assolutamente. Comunque, lo sai io. Che si capisce moltissimo in questi giorni di come viene gestita. Qualcuno dice veniva, come viene ancora gestita l'immigrazione, l'accoglienza, eccetera, eccetera. Parenzo. Odeven, quello che era stato implicato nella vicenda Roma Capitale, Mafia Capitale, l'ex uomo di Veltroni, eccetera, dice che pigliava 5.000 euro al mese da Buzzi e Carminati, Buzzi. Sì, sì. E ha preso in tutto, credo, oltre 200.000 euro per la costruzione, ecco. Per la messa in piedi del centro di accoglienza lì in Sicilia. Ma quello è un fenomeno criminale, infatti. Nulla a che vedere è con l'accoglienza. È quasi tutto un fenomeno criminale no, lì. No, quasi, come si no? Chiama fenomeno criminale, ma quasi non c'entra tutto i migranti. Criminale, non dico criminale solamente dal punto di vista penale. Criminale c'entra dal punto di vista della venivano, ruberia. Li fanno venire sulle spalle apposta. Di sti poveretti. Li ma fanno che, venire ma che apposta. Secondo te Odeven chiama... Ma, no. Ma non diciamo scempiate, dai. Ma cosa vuol dire far venire apposta? Chi li fa venire apposta? Non guarda fanno nulla per impedire questo comunque. Ma che vuol dire nulla per impedire questo traffico. Ma con la fame fai qualunque cosa. Sentiamo muslim, sentiamo muslim. Va, tardi, ma chi è muslim? Ah, ecco. Dai, dimmi, dimmi. No, ma dimmi, che stai facendo allora? Ma dovevi allora, no. Non no, stavi no, caricando che... il camion, Tabby? No, no, no, sono fermo qua, aspettate non due minuti niente, poi mi rimando. Scusami, Tabby, ma tu ancora niente. Tu fai camionista ancora, no? Sì, faccio proprio camionista. Se non mi danno pensioni, porco cazzo, se mi danno ancora meno, non mi danno. Vabbè, allora? Che volevi dire? Allora, diceva il ragazzo ieri, l'uomo, che quando scorregge vai a lavarti. No, non è vero niente. No, puoi scorreggiare anche 50.000 volte. L'unica... Ma no, ma lui che... Ma che tema è questo? Ma è il musulmano che si lava continuamente quando sì, emette, delle, no, emette delle scorregge. Bravo, lui devi lavarti solo quando vai a fare la preghiera. Se scorreggi veramente prima della preghiera, 2-3 minuti, allora vai a lavarti. Altrimenti ma che non puoi scorreggiare che 50.000 volte al giorno. Ma cosa stai dicendo? Ma è scusa, quello che voleva dire quello seguire. Che c'è un signore islamico che è intervenuto ieri sì, e che sosteneva che c'è un continuo lavarsi, un continuo certo, lavarsi. Perché insomma l'uomo ti ho spiegato che fuori dalle moschee in tutte le moschee ci sono i posti per lavarsi i piedi, le mani e dietro le orecchie e la faccia perché per entrare in moschea devi essere pulito al cospetto di Dio. Vabbè, questo in tutte le moschee ci sono questi. Che poi ci sia questo dettaglio sulla come dire Talbi, sul... l'ultima volta che ti sei stato in una moschea quando è stato tu Talbi? Aspetta 4 anni che non vado giù. È 4 anni fa. 4 anni fa, ma tu non preghi, tu non lo sai manco dire Allahu Akbar, non lo sai nemmeno no, dire. No, no, so dire, calma, non lo sai, calma, non lo sai dire Allahu Akbar. Allahu Akbar lo dico, Allahu Akbar lo dico, dai, dai, dai ma dillo in mezzo, vai a dire in mezzo, che ne so, a una piazza, dillo in mezzo ad una in un bar, in un supermercato, fai Allahu Akbar, vedrai. Minca, urco, cani, scappano via tutti, pensano che devo esplodere. Non dice questa roba qua. Lo vedi? Ormai non puoi dirlo questa roba qua. Lo vedi? No. Beh, ti credo. Se scusa, uno non ho capito bene il discorso una... che facevi in precedenza. Cioè, tu dici praticamente che fai sesso molte volte, 3, 4, 5 volte a poco, settimana. Poco, 4, 5 volte a settimana, poco, porco cane, dai, rispetto prima. 4, 5 volte a settimana è poco? Sì, con perché la moglie non sta, ma se sta la moglie posso fare anche tutta la sera, ma poco. Non faccio più 3, 4 la notte. Uno, to, due, to. Però che tipo di interesse ha questo intervento per il grande ascolto? No, cioè... io no, non ho detto questo, è lui che mi ha provocato, quel maledetto là vicino del porco. Quel maledetto, lo so che è un porco schifoso, tu non cascare nella trappola però. Cosa rispondi su quanto fai il sesso? Scusa, ok, ok, cugino, non rispondo più. Ma perché non rispondere più? Ma deve rispondere, scusa, che cugino? Cugino, non rispondo, sei d'accordo. Scusa, ma io volevo, Talbi, non ho capito, ma tu tradisci tua moglie o no? No, non tradisco. Beh, dai, come no, 51 anni, dai. No. Cioè, sarà una di quelle là, una panzona tremenda, tua moglie, una di queste qua col velo, una panzona terribile, ma sicura al 100%, matematico. Cioè, una di queste qua, no o no, o sbaglio? Ascoltala, ascolta, io ti chiedo solo un piacere e mi rivolgo a caricare il camion. Per favore, invita la dottoressa Gnappi. Ma perché? Tu sei fissato, la Nappi, è fissato con la Nappi. Mamma mia, ma basta sentirlo cosa parla, che dà le lezioni, lei parla noi, parli donna, quella roba ma là. Ma tu non sei islamico, perché sei troppo, sei un gran peccatore, cioè non sei un vero islamico. Questa è la verità, puoi dirle che però, forti, amico mio, peccatore. Tua moglie è sicuramente una vecchia cicciona, una no, ma scherzi, una modella, altro che adesso sarà inguardabile anche lei. Sì, sarà inguardabile adesso, va in giro col chador, col coso. Ma che chador? No, metti solo un folare adesso, da un po' di anni metti il folare sopra, basta un folare. Se si veste all'italiana metti solo un folare e via. Sarà inguardabile sicuramente, inguardabile. Sì, dai, una bella donna, dai. Okay, se lo trombo ancora vuol dire una bella donna. Se no? Talbi, però... signor Talbi da Padova, vai, carica il camion, va, ciao. Molto integrato, signor Talbi, sì, molto anche, integrato. Sì, Tiziano Milano, Tiziano, vai. Sì, Tiziano. Buonasera. Dimmi. Sì, volevo fare semplicemente due interventi, due osservazioni. Io ho tre cani e ho sempre ritenuto che l'animale più intelligente è inferiore all'essere umano, ma quando ho sentito il signore romano, che non sa neanche parlare l'italiano, ho trovato uno inferiore ai miei cani. Uno. Altra osservazione, invito gli americani, in quanto hanno uno che sta facendo quello che ha promesso di fare in campagna elettorale. Vabbè, ma tu sei passato... anche se non condivido. Senti, amico mio, ma non ho capito, tu sei uno di quelli che compra tutte quelle cose per gli animali, che ne so, i cappottini... Sì, perché siccome è freddo compro il cappottino. Ah, il cappottino, e come lo compri il cappottino? Di cashmere? Dipende, come lo compri? Mi deve piacere. Di cashmerino? Lo faccio vedere anche al cane. Ti deve... lo fai vedere al cane. Come fai il cane a dare? Come fa il cane ad accettare? Ah, non lo so, perché non fa l'ho mai cenno, fatto vedere. Fa un cenno con la testa. Compro il cappottino per una questione di necessità... per il cane, non tanto per fare le mostre. No, ma ho capito, amico. Però glielo fai scegliere, hai detto, no? Ma che faccio scegliere il cane? Dai, e che ne so, glielo fai vedere, magari dice, caro, ti piace questo cappottino, sì, che ne so. Sì, mi dà anche i voti. Ma pulisci bene le unghie o no al cane ogni tanto? Li lavo anche i denti io. Fai la toletta al cane. Sì, questo dei denti da lavare al cane l'ho sentito anch'io, me l'hanno detto. Sì, tutti i cani che hanno prognatismo sono destinati a perdere i denti se non li si puliscono. Questo l'ho sentito, me l'hanno raccontato. Parenzo, lo dice il veterinario. Ho detto che anche oggi me l'ha confermato una persona che lava i denti al cane. Infatti, Alessio da Roma, ciao. Non la trovo, Alessio. Ciao. Alessio. Sì, buonasera Giuseppe, buonasera David. Dimmi, caro Alessio, dimmi, benvenuto. Dimmi, dai ragazzi, basta con questi buonasera che sono orrendi, dai su. Alessio, mica stiamo a radio... C'è una provocazione. Dai. Io vorrei tornare a parlare di Bello Figo. Sì, vai, dimmi. Questo italiano, perché sottolineo che è un italiano, è stato penalizzato dalla troppa popolarità. Popolarità su YouTube, su internet. Esatto, no? Esatto. E allora, perché non facciamo una bella petizione e lo portiamo a Sanremo? Non avverrà mai, a parte una petizione. Non avverrà mai. Cioè... mi pare eccessivo, guardi. Tra l'altro, la cosa più curiosa di Bello Figo è che viene difeso da persone che hanno molto a cuore anche i diritti delle donne, sai, tutte queste robe qui, tutta questa paccottiglia, i diritti delle donne. Perché paccottiglia? Perché spesso sono... Perché dici paccottiglia? Perché sono spesso delle banalità totali. Comunque, viene difeso da queste persone qui, tra cui Giulia Innocenzi, per esempio, che lo porta come esempio di integrazione. Beh, si dovrebbero ascoltare alcune canzoni del signor Bello Figo, che io difendo nella sua libertà di espressione e tutto quello che volete. No, canta delle cose orrende, ma io lo considero la un bocca satiro. Delle donne, scopare le donne bianche, questo è il signor Bello Figo. O lo accettate in toto, o lo accettate anche su queste cose, non gli rompete le balle anche su queste cose, oppure non è che potete difenderlo solamente per una parte. Cioè, è anche questo, cioè è sprezzante nei confronti della donna, trombare, eccetera, usa delle parole molto chiare. Poi non venite a rompere i coglioni però, non venite a rompere le balle sui diritti, le cose, il maschilismo, il machismo, eccetera, eccetera. O lo difendete tutto, o non è che lo difendete solamente in parte. Siete il peggio del peggio, fate schifo. La Zanzara. Agatino Catania. Anzi, Aloha, perché buonasera, hai detto di non dirlo. Eh? Aloha, dico, hai detto di non dire buonasera. Dai, dai, vai avanti, adesso. Su, vai avanti. Aloha, allora, Aloha. Io sono cristiano cattolico apostolico romano. Benissimo. Cristiano cattolico apostolico, apostolico romano. Pensavo fossero scomparsi, evidentemente. No, non siamo scomparsi, siamo in tanti e grazie a Dio, come nelle altre parrocchie, voi chiamate parrocchie, le chiamo anche parrocchie, siamo in tanti. Apostolico romano. Volevo fare una domanda al tuo assistente che non nomino neanche. Addirittura? Sì, anzi, la domanda la faccio più che altro agli avvocati. Allora fai, vai, vai. Agli avvocati che ci ascoltano. Addirittura. L'assistente, se ci sono, nella sua logica, sarei io l'assistente, estremi, credo. Estremi, no? Sì, sì, sarebbe lei. Sono se io. Se ci sono estremi per una denunzia. Oh, finalmente, oh, dai, sì. Dai, perché? Dai, dai, lo vuoi denunziare? Oh, sì, sì, dico, dai, dai, dai. Quando dai. Si parla di un'istituzione, il Vaticano, sì. Si può dire... buttiamo le bombe, buttiamo le bombe, era, buttiamo le bombe, era buttiamo le bombe, era un'imitazione di un, era un'imitazione fatta male comunque, vabbè, paradossale, quello, quello di un signore esatto, che si chiama Ludva, che era un'imitazione paradossale. Sì, no, no, il paradosso, attenzione, quando si parla di bombe, sì. Il paradosso secondo me non si dovrebbe fare. Sì, comunque sì, chiedo sì. A voi e a chi ci ascolta, sì, chiedi, se bravo. Ci sono gli estremi, sì. Speriamo, speriamo. Ci sono gli estremi, ci sono gli estremi perché chi chiama, perché se il signore che chiama è troppo idiota, ci sono gli estremi. Se, se no, chi ci sono chiama, gli estremi per chiamare gli infermieri, esatto, sì. Chiamare gli infermieri, se chi chiama è troppo idiota oltre la media, ci sono gli estremi? No, ci sono gli estremi in questo caso del signore apostolico romano, già sì, il fatto che uno si dichiari apostolico romano. No, ma io ho grande rispetto, Agatino, ma era satira, era Agatino, una cosa ironica. Agati, ciao. Allora, caro Parenzo, ti pare normale che c'è un signore che si chiama Giorgio Napolitano? Giorgio, anche lui aveva dichiarato, credo, basta, io non faccio più politica, eccetera, eccetera. Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica. A me non mi interessa quello che ha fatto senatore prima. A vita, se presidente fatto, merito, sì, dimmi, carità, che è successo? Qualcuno dice addirittura che dovrebbe essere processato per quello che ha fatto prima. Praticamente ha fatto governare persone che non erano state elette, il colpo di Stato. Alcuni il arrivano a dire queste cose qua. L'ha deciso. Sì, sì, per carità. Allora, ti pare normale che dica... in tutti i paesi civili si va a votare alla scadenza della legislatura? Ora, a parte è che il suo una... parere, come vale come quello degli altri, no, vale no, come no, quello no, di Razzi, no, no. Di Scilipotti. Non è vero, non è vera questa vale cosa, come non è vero che anche i paesi vale come qualsiasi no, però della qui Repubblica. C'è una cosa un errore proprio. Cioè, perché lui dice se si va a votare prima della scadenza naturale della legislatura c'è inciviltà, non è vero, è pieno di paesi civilissimi è in cui parere. Non si va a votare prima. Ma certo, ma è il suo parere, ma che vuol dire? Che vuol dire? Certo che è il suo parere. È il parere di un senatore della puttanata. Repubblica, il fatto è che sia puttanata. Ex presidente della... è un senatore come gli altri. No, ma ragazzi, è una puttanata, dai, su. Ma è no, ma puttanata. Può essere una sciocchezza sicuramente, è una io, sciocchezza, io penso dai. Sia una sciocchezza. È una ma sciocchezza. Il suo parere vale tanto quanto quello di altri senatori, ma non mi pare niente. Uno scandalo. Non ha lo stesso ruolo, non ha avuto lo stesso ruolo di altri senatori, signor Napolitano. Ma che vuol dire? Dai, su, è una cosa assurda. Dai, qua si intromette continuamente nella vita si politica. Si intromette, che peso ha oggi le parole di Napolitano? Sì, hanno un qualche peso. Ma cioè, quale? Ma di che cos'è la ma è con noi, di una... fermi tutti. Grande ritorno alla zanzara. Gio Formaggio dal Bettone, oh, caro Parenzo. Gio, come stai? Ciao carissimo. Come andiamo? Tutto bene, tutto avanti bene. Tutta, non preoccuparti di chi ti denuncia, non preoccuparti avanti. Mai. Avanti tutta, indifferente alle denunce, libertà di parola, libertà di espressione per tutti, anche non per Gio libertà Formaggio. Di essere razzista, però quella non è una libertà, ma non dai. È un diritto. E padroni a casa nostra. Non esiste il parte diritto ad essere razzisti. Parte che c'è anche la libertà al razzismo, secondo me. No, no. Diritto al razzismo, non qui, me. Non come in no? Europa, non in Italia, non c'è ma il diritto a essere razzisti. Chi se ne frega? Ma tu non eri quello che diceva frontiere aperte, il mondo, schisita l'apertura, eccetera, ma eccetera. Ma che c'entra questo con l'offesa e con il razzismo? Non no, c'entra niente. Dai, su. Senti, caro non Gio, esiste il diritto al razzismo, questo no, no, è incontrovertibile, non esiste. Come vedi il signor Trump? Ecco. È il numero uno. È il numero uno. Formaggio, sì, ho capito. Lo sta dicendo un signore che si chiama Joe Formaggio, sì, che è il sindaco di un posto totalmente inesistente, tal Albettone. Che ma perché inesistente? Scusa, allora sono andato a sciare oggi. David, a casa tua, in quella pista lì finta che hai bellissima, fatto. E ti regalerò uno ski pass per una ma giornata. Non, ma io no, non però mai. Più. Ma bravo, mica sono, bravo, bravo. Ma io mica sono uno che va a sciare. Senti che buono, senti che buono che sono diventato. Ma io vado a sciare, ma io vado a sciare in montagna, non in a un posto finto. Di sciare, a proposito di sciare, in ecco Friuli Venezia Giulia c'è una cooperativa, ha regalato dei corsi gratis a 16 migranti, piccoli migranti provenienti da vari paesi. E c'è una polemica su questa roba qua, perché dice com'è possibile che no, ma corsi sai cosa di mi preoccupa gratuiti? Tantissimo. Cosa ti preoccupa? Insegnare a loro a sciare vuol dire che dopo ci li terremo sempre qua, perché se tornano in Africa dove non c'è la neve non gli serve a niente. Una volta che vogliamo insegnarli a sciare vuol dire che vogliamo anche tenerceli qua, quindi oltre il danno la beffa. Cioè, non tu mi dici, pare un legame con i corsi, così diretto. Se dovessero imparare a sciare so cazzi, ce li dobbiamo tenere qua. Sì, che magari ce li troviamo sulle piste da sci. Ma perché secondo te i neri sono capaci di sciare? Ma non io non ne ho mai visti uno. Uno sciare, tu dici sciare non è no, mai ma visto. Magari sono bravi, imparano. Ma non lo so, sì, cosa fanno? Sono meglio diciamo di me perché oggi sono caduto e mi sono fatto male anche un ginocchio. Appunto, vedi? Oh, vedi che c'è giustizia al mondo. Vabbè, ma secondo te è una quanto cosa ti dispiace? Ma è una guarda, cosa... non riesco a lacrimare. Scusami Gio, ma è una cosa non così riesco. Grave fare dei corsi di sci per gli immigrati, secondo te? Cioè, tu dici ma, gli italiani no? No, non è che sia grave, è che purtroppo quando la gente che non riesce ad arrivare a fine mese, no? Sì, perché finché lo sente David Parento che va a Cortina, sì. è bello, non gli cambia niente. Ma non è che solo a Cortina, anche sente... a Dobbiaco, no, anche in Val d'Aosta. Ma finché lo sente vado, il padre di famiglia che non riesce a mettere assieme la colazione con la cena per i suoi figli. E dici che paghiamo il corso... Finché ogni... i terremotati stanno sotto a 2 metri di neve nelle tende e questi qua sono negli alberghi a 4 stelle, dopo gli facciamo anche il corso di sci, a me non ha mai regalato nessuno il corso di sci. Cioè, tu dici allora, la gente cioè, ha diritto di incazzare la, no, non facciamo incazzare le persone, no? Sì. È la stessa cosa. Prima parlavi di bello figo. Bello figo. Che io vorrei dimmi che ce ne fossero. No, vorrei che ce ne fossero altri 10 o 20 come bello figo. Perché? Perché la gente si sta incazzando da morire. Tu dici, e a me bello, piace da morire. Tu dici bello figo, porta voti a noi. Porta no, voti. Porta voti a noi, porta che la gente si incazza. E allora che ce ne siano tanti, io lo farei esibire anche ad Albettone bello figo. Beh, non credo, dai, non credo. Non credo che lo porteresti a bello ad Albettone. No, bello figo, perché so già quello che succederebbe, allora io mi diverto. Cioè, che mi succede? Prendo, che siccome succede? Sono abbastanza grosso, no? Mi prendo 2 chili di popcorn con la Coca-Cola e mi siedo là a guardarmi lo spettacolo. Cioè, tu dici lo linciano, signor come bello mini, figo. Come minimo lo linciano. Da noi ad Albettone lo linciano. Bello, bel David, clima in quel è stato paese. David, è stato David 10 minuti fa a dire, no, che uno David? A casa sua... David. Tu, David. David Gnomo, David. No, però non è che tu sia tanto alto, eh? Però no, bello figo, fondo, diciamo però. La verità, bello figo ti fa schifo a te, diciamola tutta. Sì. Ti fa schifo. Abbastanza. Cioè ti fa orrore. C'è uno che dice wifi, prendiamo sì, wifi, scopo fighe bianche, non pago affitto. Cioè tutto quello che la gente, ma ti dico, mi piace che ci sia, perché la gente si incazza. E ti racconto una storia. Raccontami, dai. Sentiamo, è stato storia. Un mese fa circa, no, quando è scoppiata la polemica. C'era una volta il sindaco di un comune razzista. Sono al ristorante, mi chiamano dei ragazzi, mi fanno, Gio, hai sentito bello figo. Guarda cosa c'è appena arrivato. Guardo, c'era una fotografia con bello figo da una parte che dice io mi scopo fighe bianche, e dall'altra c'era Hitler che diceva sei bellissimo, sei bravissimo, canti bene, farai la doccia per primo. Sì. Cioè, ti rendi conto? E la gente dice questa è una bella vignetta. Ma anche tu l'hai, cioè, ti sei messa a ridere anche tu. Ma allora io ci ho riso sopra. Però capisci che no, bello figo non fa altro che far incazzare la gente. Sì, ho capito. Però tu dici facesse una fine come quella non saresti troppo dispiaciuto? No, io non vorrei quello. Beh, non voglio non voglio assolutamente quello. Dopo non mi si mettano in bocca. No, cose, vabbè, adesso non fare quello. Però come dire, no, Hitler una cosa giusta l'ha fatta, secondo te? Una sola, ti dico, questa è una domanda. Hitler una cosa giusta l'ha fatta, sì o no? Beh, ha tolto la disoccupazione in Germania. Poi? E ha dato da mangiare al suo popolo che era la fame. Beh, ma dopo cosa il resto sta è sbagliato dicendo? Perché guardami l'olocausto, cosa sta dicendo? Sono state sbagliatissime. Ma che e vuol le dire dato da mangiare al suo popolo? Ma che dice? Cioè, tu dici, ma hai idea di come era messa la Germania? Tu dici, allora, la Germania di Hitler comunque aveva. Non sto difendendo Hitler, sia no, chiaro. Vabbè, però qualche cosa giusta l'ha fatta, dici tu. Qualche cosa giusta l'ha fatta, come ne ha fatte tante di giuste Mussolini. Vabbè, tu sei mussoliniano, Ma mi piace, cosa devo fare? Appunto, no, per carità, ti piace Mussolini? Non sarebbe una brutta idea. No, Salvini ha detto, Salvini ha detto oggi, ieri, non mi ricordo. Beh, io capisco molti italiani che vogliono votare Mussolini, che dicono che rimpiangono Mussolini, così ha detto in una trasmissione. Io con la metà, minimo la metà delle persone che sento, sì, tutti quando vedono Mussolini. Quando leggono il giornale o guardano la televisione o sentono la radio, dicono ci vorrebbe ancora Mussolini. Sì. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Che schifo, ragazzi. Giovinezza, giovinezza. Com'è che fa poi? Arrestateli tutti. E due, polizia, segnalate Gio Formaggio, sindaco di Albettone, il cellulare è il 335 4290 474. Stanno arrivando. Senti, ma che ne pensi del Papa, del Papa del Vaticano che protesta con Trump, amico mio? Gio Formaggio, ascolta, secondo me la Chiesa non dovrebbe metterci il naso sulle cose della politica, non dovrebbero rompere i coglioni, dai, ma mettessero gli immigrati a casa dentro le mura del Vaticano. Allora dai, lui ha portato dentro tre famiglie siriane, sì, e ha detto anche il Vaticano le ospita, no? Sì. Dice non alzate i muri, il Vaticano è una città murata, sì, non sì, si può andare in Vaticano. Prova ad andare in Vaticano. Allora prendi David Parenzo, no, prendiamo l'immigrato, facciamo da povero e gli dici vai dentro al Vaticano. Sai che dovrebbe succedere veramente a Roma? A fare in culo. A Roma un po' di immigrati dovrebbero provare a forzare i blocchi del Vaticano, entrare dentro, sì, piazzarsi, ecco, dai, là, con le tende Vaticano, nei giardini del Vaticano. Perché? Bellissimo, fare... con le tende lì. Perché non fanno le tende lì? I rifugiati, un campo profughi nei giardini vaticani. Là dentro è facile fare gli omosessuali con il culo degli altri, no? Se la mettono sempre, no. Si può anche dire è facile fare i froci col culo degli altri. Fermo lì. Si può dire, no? Perché senti che sto diventando più bravo, no? No, ma si può dire perché alla fine la parola froce è sdoganata qui. Fermo un attimo, fermo. Possiamo risolvere il problema delle nascite in Italia togliendo il celibato ai preti. Top. La Zanzara. Parenzo, tranquillo, tutti quelli che darebbero fuoco agli zingari appena se ne trovano uno davanti si cacano addosso. Un chilo di merda nelle mutande. Stai tranquillo, Parenzo, questi sono dei cagasotto. Espressione della maggioranza silenziosa, caro Parenzo. Intanto è stato condannato il professor Antinori, eh? Difensore, secondo te? Difensore, se prova a indovinare, capite? Dunque, potrebbe essere il professor Carlo Taormina? Esatto. Ma condannato in primo grado, però. 3 anni e 6 mesi per estorsione. Grado, però, giusto, era il processo. Estorsione perché pare che chiedesse soldi oltre illecito per un intervento di fecondazione assistita. Ti mando in processo. Chiamalo. Allora, a proposito però di Rom, caro, caro Gio, ma se tu hai figli tu, no, Gio? Sì, ho 3 bambini. Se incontri un Rom per strada, no, con dei bambini, ti preoccupi subito? Beh, li sposto minimo. Cioè, sì, disposti come se spostati? Immediatamente. Immediatamente, tu dici. Cioè, servono i Rom? Cioè, sono utili? Dimmi a cosa. Ma non lo so, è una domanda che ti faccio. Cosa vuol dire? La risposta mia è dimmi a cosa. Cioè i Rom non servono alla società, dici? Assolutamente no. Assolutamente. Cioè, sono degli scarti. No, non è che sono degli scarti. Come si stanno comportando ovunque, sì, non servono assolutamente a niente. Sono solo un peso per la società. Cioè non è non hanno una funzione. Se vogliamo, allora a Vicenza, io ti parlo dell'esempio di Vicenza. Sì. Gli hanno fatto il campo nuovo, speso 250.000 euro, sì, colonnine, sì, sì. Gli hanno detto ti facciamo l'elettricità, non la paghi come le famiglie normali che vanno a lavorare, visto che tu sei un po' disagiato, la paghi in metà. Questi qua non hanno pagato niente, hanno rotto le colonnine, hanno rubato persino il rame delle colonnine sue. E quelle sono dei criminali. Rame da circo. Robe da circo. Quelli che lo fanno sono dei criminali. E continuano sti qua, non pago affitto, no. Dovrebbe andare a cantarla là. La canzone, coso, il... Bello figo, dici, bello eccolo. Figo. Nel... Sì, però voglio dire, tu dici, sono tutti così, sono tutti così. Rubano. Vi ricordate la storia del povero Hermes? No, dopo 17 volte che sti qua vanno a rubargli in casa. Sì, ma sono tutti così, secondo te? Cioè, quei Rom, cioè, non se ne sa, cioè, 99% rubano. Io crescerei un po'. 100%, ce ne rubano tutti, cioè non ce n'è uno che lavora. Lasciamogli il beneficio del dubbio e teniamo un zero virgola. Uno zero virgola, però tu dici la maggior parte sono tutti ladri, la stragrande maggioranza tutti ladri. La stragrande maggioranza che io ho conosciuto e che vedo... Tutti ladri. Non ti esprimono sicurezza. Il rimedio qual è? Il rimedio qual è? Questo è il punto. Quello allora, è... quelli che non sono italiani, rimpatriarli via. Subito. Via. Mandarli proprio via, no? Quelli che vengono dal Montenegro, dalla Serbia, sì, dalla Romania, sì, fuori, via, aria. Perché non li voglio aria. Neanche. Sono venuti qua perché non li voglio neanche là. Sì, e dunque, via, devo... via in che modo? Mandarli... Cominciare con i bambini? No, aspetta, cominciare con i bambini, si portano a scuola, i genitori tengono a casa, si tirano via i bambini perché i bambini si possono salvare. Sì. A me fa incazzare di come gestiscono i loro figli. Ma perché che devono andare a scuola? Ma che sono le campane di una chiesa? Che sono? Sempre le campane, sai, io mi metto a telefonare fuori dal mio ristorante, sì, sotto la chiesa. Beh, le campane della chiesa di Albettone, c'è il ristorante? C'è. Sì, c'è il ristorante, certo. Sì, no, non c'è un minaretto ad Albettone, eh? C'è la chiesa. Con il nostro parroco che un campo rom viene ogni tanto no, non c'è nessun rom nonostante abbiano sequestrato le tabelle che in tutti gli altri comuni d'Italia persistono e non gliene frega un cazzo a nessuno ad Albettone mi hanno fatto un avviso di garanzia e le hanno sequestrate e portate via. È una follia questa, dai. Questa qua, cioè, bisogna essere dei pazzi. Uno non può fare il cazzo che vuole, comunque vabbè. No, a casa mia no. Allora, sì, sono a casa mia perché dei cittadini mi hanno detto fai il sindaco, benissimo. Sì. Sono il sindaco, quindi considero il paese casa mia perché sono la voce dei miei cittadini. I cittadini non li vogliono, metto la tabella, voi non... No, c'è welcome. Da aver paura in quel paese se i cittadini la pensano, si esprimono come si esprime questa signora. L'hanno votato come sindaco, l'hanno eletto come sindaco. C'è da aver paura, c'è da chiamarlo il comune volta, più razzista guardami, d'Italia. La prima volta possono aver sbagliato, ma la seconda non penso, no? Anche senti, perché... conoscendoli sono abbastanza intelligenti. Senti, a proposito invece di immigrazione, oggi c'è stato un caso a Napoli di una cooperante che è stata molestata, diciamo, uno che dice non faccio sesso da 3 mesi e si è spogliato. Ma secondo te è vera sta cosa che sono come dire sessualmente molto più, hanno molto più bisogno di noi? No, ma ascolta, tu porti un ragazzotto di 25-30 anni, sì, lo metti là dentro un hotel, un mese, 2 mesi, 3 mesi, sì, avrà dei bisogni sessuali. Quando io ho detto che sta gente qua avrà dei bisogni sessuali, di qua si sono messi a ridere in una trasmissione, ho detto Formaggio tu sei un deficiente. Sì. Allora, andate a dirlo alla figlia della signora che è stata violentata o ai figli della signora che è stata violentata che Gio Formaggio è un deficiente. Sto qua va castrato, gli si taglia l'uccello. Cioè tu dici la maggior parte di quelli non che non è razzismo, perché se mio fratello violenta una donna, sì, gli faccio la stessa cosa. Le donne non si toccano, come non si toccano i bambini. D'accordo, dunque il resto possiamo discutere e fare quello che volete. Secondo te tra gli immigrati che arrivano c'è un tasso di violentatori o di maniaci sessuali? Ma sai, allora non è che partono per fare i violentatori, è che non è che ci siano tante donne italiane disposte ad andare con loro. Beh, insomma. Questo lo dici te, io non ne conosco dice? Neanche una, dopo non so. Ma è proprio la lingua in libertà ormai. Cioè tu dici praticamente che arrivano qua, dopo un po', sono giovani, sono sessualmente... in Germania, sessualmente attivi. Sono sessualmente attivi allora, anche su... Ma lei conosce gli Stati Uniti d'America? Guardami, ha visto gli wifi. Stati Uniti d'America? Gli diamo il wifi. Poi? Allora guardami, negli Stati Uniti d'America ci sono stato più di te. Matrimoni. Matrimoni così. Ma perché non apri la sezione del Ku Klux Klan italiano? Bellissimo, Ku Klux Klan Italia. Di Albettone. Di Albettone, dai, Ku Klux Klan di Albettone. È un posto talmente ridente che sarebbe la cosa più bella che fa, guardali. Un'attrazione quasi turistica. Io voglio tipo capire Disney. Se per te sono gli immigrati sono sessualmente pericolosi. Sì. Sono sessualmente pericolosi. Sono, cioè, sessualmente sono un pericolo, un pericolo per le donne italiane. Ma vi rende, ma che cos'è questo? Detto, è un nuovo manuale del nuovo razzista. Come ma ha detto un mio carissimo amico. Ma come amico, si fa, la però, scusami, a dire una roba simile? Che ha detto un tuo carissimo amico? La storia mi darà ragione. Ma chi era? Pripke? No. No, chiedo perché è un carissimo amico. Giovinezza! Giovinezza! Eccole. Primavera di bellezza! Ma dico io. Giovinezza! Comunque. Gio Formaggio dice che gli immigrati sono sessualmente pericolosi, cioè sono dei predatori, tu dici dei no, allora, beh, sì, ma non questo. È che i maschi italiani invece no predatori. I maschi italiani no, ma messi così dove? Ma che ma messi allora, lì, portati qui in queste condizioni incredibile, è incredibile, ma sono messi lì in un angolo. Scusa, allora, ma se tu 100 ragazzi lì, sì, tu hai figli hai figlie? Ma è femmine? Sì, ho una bambina piccola di 2 anni. Di 2 anni, vabbè, no, mettiamo che cresce, eccetera, e si mette con un nero, che fai tu? non lo accetterò mai. E come mai? Ma farò di tutto. Allora, penso, allora, a 2 anni, ne ho altri 16, no? Sì. Prima della maggiore età. Ho 16 anni di tempo per mettergli in testa tutto quello che serve perché non succeda mai. Cioè tu non accetteresti, non accetteresti il fatto che si fidanzi con un nero? No. No. E non è razzismo, però, no, però, però cioè, non ti interessa il fatto che magari questo qua è un intelligente, che ne so, che è una brava persona, un ingegnere, un... cioè tu vuoi che no, tu, la società multirazziale non ti no, piace, un architetto, un architetto, un notaio nero, multietnica non mi piace, non ti, cioè, non ti piace perché i meticci non ti piacciono, i meticci no, anche perché non mantengono, non mantengono né l'una né l'altra caratteristica, cioè l'ex moglie di Briatore non gli piace a lui. E non ti piacciono le nere, non te le farei una no, di colore. No, no, Naomi, l'ex moglie di Briatore, non gli piacciono piace. Le nere, evidentemente, dai. No, ma vuoi per capire? È colpa mia. E non gli piacciono le negre, non gli piacciono le negre, dai, su, c'è poco da fare. Cioè, è così, non gli piace. Ma perché, che c'hanno le donne? Sono mi piace lì. Solo in camicia quel colore lì. Naomi Campbell non gli piace. Ci piace solo la camicia nera. Solo la camicia nera. Vabbè, beh, sono razzista. Scusate, ma non ho capito perché. Poveretto, cioè, non andresti mai a letto con una nera? No, mai. Ma perché? C'è puzzano, che fanno? No, non mi viene, sai, è una cosa epidermica. Non mi no? viene, ma anche viene. A loro fai schifo, sai. Fidati che anche a loro fa ribrezzo l'idea di poter anche soltanto sfiorare con una mano il sindaco allora, di Albettone. Ognuno a casa sì, sua. Anche a loro, guarda, gli ciao, fai ciao, a presto. Ciao. Viva Albettone, viva Albettone. Viva Albettone. Sì, andiamo sì. sulle piste da sci, andiamo. Ma quali piste? Portiamo un gruppo di profughi. Vediamo ciao, Cervi, a Dobbiaco si scia. Ma portiamo, ma scusa, ma perché non portiamo un gruppo di a profughi? A Cortina si scia, sul Civetta si scia, non ad Albettone, in una pista sintetica. Ma perché non portiamo finta? Un gruppo di profughi a là? Un gruppo sì, di profughi lì a sarebbe da a fare sciare. Una marcia, io volevo fare la marcia e su e non la fai più, te la sei fatta sotto. Vuole fare la marcia fatta su Albettone. Ma sì, ma non sarebbe più, se l'è fatta sotto. No, ma che fatta sotto, adesso organizzeremo tutto. Ciao, ciao, Gio, ciao. Ciao, ciao. Alessandro da Bari, vai Alessandro. Buonasera a tutti e due. Farenzo, dimmi, alza la voce, vai, dimmi. Allora, ascolta, beh, è interessante ascoltare questo signore, Gio Formaggio, che poi fa tanto il sapientone, poi ha fatto una figuraccia di merda alle Iene con il test, non so se l'hai visto. Sì, sì, il test, vabbè, sul test di intelligenza. Test di intelligenza. Neri. E lui è stato il primo a fare la figura di merda. Comunque, detto questo, Volevo dire proprio di quello che ha detto lui, cioè che vuoi dire? Il Vaticano dice quello che Trump deve fare o non deve fare e poi loro stessi hanno le mura intorno. Vabbè, quello è uno stato, cioè, hanno le mura della città del Vaticano. Vabbè, perché mettono a me lo dici, amico mio, ma per me trattasi di cose da superare. Cioè, io vorrei dei profughi dentro la città del Vaticano, dentro i giardini Vaticani. Bisogna fare un'operazione del genere. Loro non perché Parenzo non andiamo? Cioè, abbiamo tanti problemi. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Sì, ma sono d'accordo con te. Perché Parenzo abbiamo già tanti processi in corso? Perché non ne solleviamo uno anche del Vaticano contro di noi? Cioè, sarebbe divertente, no, Davide? Beh, avendo già contro chiunque praticamente, manca sì soltanto lo Stato un bel del processo Vaticano. Della città del Vaticano, stupendo. Facciamo entrare un gruppo di profughi, occupiamo i giardini della città del Vaticano. Sì, è una stupendo. Bellissima iniziativa che stai lanciando. Dai, anche questa, su. ottimo. Sì, apriamo altri fronti in continuazione senza Alessandro, problemi. Alessandro, allora? Allora, io non sono razzista, però se fossi presidente dell'Italia... Sì, presidente dell'Italia, che faresti? Vabbè, presidente del Consiglio. Allora? Sì, è un'ipotesi un po' remota. Dare sicuramente un calcio in culo ai rumeni. Ai rumeni, che vuol dire ai rumeni? A tutti i rumeni. A tutti. Sì. Ma tutti sono, non si può fare. Un popolo che non serve. Ma pure i rumeni non servono, mo. Cioè, non solo di cose. Pure i rumeni non servono. Perché non servono i rumeni? Non servono. I rumeni non servono perché rubano, danno fastidio. Vabbè, ma ho capito, ma non è che tutti i rumeni, cioè, rubano. Lei, cosa serve problema lei esattamente? Che poi nascerebbe se qualcuno si mette contro e non li vuole fare più entrare, così come ha fatto Trump con i messicani, è che lì poi si mette in mezzo la mafia, perché come sai, tu che sei esperto di queste cose qui, le rumene in Italia sai che lavoro fanno, no? Spesso fanno le prostitute, ma non solo. Sì, fanno le prostitute, certo, c'è un traffico di prostitute, ma questo non riguarda solo le rumene, riguarda le nigeriane, eccetera, eccetera. Fermo lì, ciao, ciao, fermo, ciao. Però c'è un pezzo di merda, ti vengo a prendere a casa, cornuto. La Zanzara. Allora ragazzi, anche l'immigrato musulmano ha attaccato e insultato Parenzo. Cioè, all'interno della maggioranza silenziosa ci sono delle correnti che si stanno rivoltando contro il leader massimo David Parenzo. Noi dobbiamo combattere. David, non mollare mai. David, combatti. La maggioranza silenziosa ogni tanto batte un colpo, Parenzo. Ogni certo, tanto c'è, batte un c'è, colpo. C'è, presente, combatte, lotta, diffonde il verbo della tolleranza, dell'antirazzismo, anche della bellezza, la bellezza dei monumenti, la bellezza delle nostre città. Adesso, mette scusa. In evidenza le good news, quelle notizie che positive c'entra? Che dovremmo anche noi segnalare. Storie di migranti integrati, ad esempio, storie di migranti che rendono non soltanto belle, ma ricche le nostre città. Ma pensiamo cosa ai tanti. Tanti imprenditori che oggi danno lavoro agli italiani, imprenditori migranti, magari ex clandestini. Oppure pensiamo a due grandi docenti universitari migranti. Pensiamo ai grandi talenti che da quelle navi, da quelle barche, da quelle carrette del mare sì. possono sbarcare ogni giorno. Futuri sindaci, futuri amministratori, sì. futuri senatori di questo nostro per ora disgraziato paese, ma che saprà integrare queste teste, questi cervelli, queste persone, portare intelligenze nuove in un paese che sta invecchiando, che sta invecchiando ogni giorno di più e che altrimenti ci tocca pagare a questi vecchi le pensioni. E invece, per fortuna, arrivano i migranti che ci aiutano a pagare le pensioni ai vecchi, perché questo è un paese vecchio, vecchio, di gente vecchia e anche un po' rincoglionita come le persone che spesso telefonano a questa emittente radiofonica. Abbiamo trasmesso uno dei primi comizi di Parenzo, candidato sindaco a Padova, a favore dell'integrazione. Allora, a proposito dei tuoi amici di Starbucks, che tanto hai citato nei giorni sì, scorsi ottimi, contro Trump, eccetera. Ottimi. Allora, negli Sai Stati Uniti cosa hanno fatto? Negli Stati Uniti fanno sì, so l'opposizione a dire, Trump. Sì. In Arabia Saudita. Vabbè, sono lì per paese che a non. Mio parere, a mio parere. L'ho visto su Twitter, è una polemica stupida, poi ti spiego perché. No, aspetta, in Arabia Saudita vietano l'ingresso alle donne non accompagnate per non irritare i sauditi. Allora, siccome l'Arabia Saudita non è una repubblica democratica, ma è. E allora non ci vai, allora non rompi i coglioni a Trump. Allora, hanno fatto e allora non rompi i coglioni c'entra? A Trump. Ma la democrazia non si può paragonare a una dittatura. E allora non fai affari se poi ti metti a fare le pulci a Trump ma dicendo noi assumeremo i profughi, eccetera. Ma la democrazia è molto. Dai. Ma scusa, ma perché paragoni una democrazia con una teocrazia? Non ho capito. E tu ti adatti. Allora si adattano all'Arabia Saudita. Ma io non si sto difendendo. Certo, vanno lì a fare un investimento e in allora modo opportunistico. Ma uno che non ma fanno la entrare le donne, vince. Non fanno entrare le donne non accompagnate. Deve regredire? Ma tu devi difendere il fatto che invece una democrazia cosa? È bella perché c'è anche Starbucks che decide di assumere i rifugiati. Ma possono fare quello che è vogliono Starbucks. Ma possono tu non fare puoi quello paragonare che vogliono. Una democrazia a una no, teocrazia. Però, scusami, non sto paragonando nulla. Sto dicendo certo. che Starbucks. Starbucks va a fare gli affari in Arabia Saudita, siccome investe là e in quel paese hanno queste regole medievali. E non gli interessano le donne in Arabia Saudita. Ma non Starbucks è casa loro. Non interessano. Ma non è casa loro. Non è casa loro. Non è casa loro. A me interessa, soprattutto a casa mia, cioè mi interessa che il mio paese sia civile. Poi spero che anche gli altri paesi diventino civili. È un'ipocrisia. Ma se il mio assoluta, paese dai. Non è civile, mi arrabbio perché è il mio paese. It's my country. Dai, ragazzi, è un'ipocrisia assoluta. Cioè Starbucks negli Stati Uniti fa l'opposizione a Trump non e in Arabia Saudita si piega alle leggi contro le donne. Non della... c'entra. Sai che bisognerebbe niente. Bisognerebbe fare una campagna a spada tratta contro l'Arabia Saudita. Io me ne fotto di tutti gli accordi economici, industriali. Bene, ma questo... sarebbe da sbattersene i coglioni. Questi dell'Arabia Saudita sono i peggiori perché hanno soldi a strafottere col petrolio e si possono permettere qualsiasi guarda cosa. Che hanno comprato cioè, un sacco l'Arabia di aziende Saudita. Italiane, hanno quote male, in molto importanti male, banche molto banche male, italiane, molto come male, sai. Molto male, molto male, molto male, me ne fotto. Sono delle carogne, sono delle carogne, sono delle carogne. Punto e basta, sono gli abitanti, soprattutto i governanti dell'Arabia Saudita, sono delle merite carogne, va detto, anche quelli che investono, che si adattano a queste leggi schifose contro le donne in Arabia Saudita, sono delle carogne, chiaro? Perché non hai il coraggio di dirlo? Che l'Arabia Saudita è governata da un manipolo di carogne. Lo dovresti dire anche tu, lo dovresti dire. Perché non hai il coraggio. È una dittatura. Sono certo, un è manipolo dittatura. Di carogne. È una dittatura sicuramente. Però ragazzi, voglio calmarmi. Voglio chiamare per la prima volta una Rom, quella che abbiamo sentito l'altro giorno lì a quarto grado. una rom in un campo nomadi, in un campo nomadi, credo a Roma, di come si chiama il campo nomadi, non mi ricordo dov'è, Castel Romano, credo, Castel Romano se non sbaglio, campo nomadi di Castel Romano. Beh, amico mio, chiamiamo questa signora Rom. Sentiamo, ci sarà una domanda: ma voi rubate sì o no? Quelli che abitano nel campo con te, signora Rom, rubano o no? Vediamo se è onesta. Rubano o no? Sentiamo. Pronto? Sabaeta? Sì? Buonasera, qui Radio 24, come stai? Bene, come state voi? Non c'è male, cara Sabaeta, non c'è male, ce la caviamo. Come va lì nel campo di Castel Romano? Avete l'immondizia, i topi, com'è la situazione del campo? Ecco, hanno chiuso oggi, sono venuti a Pogne, hanno trovato quasi 300 topi. Ah, hanno trovato 300 topi? Dentro dove noi ci laviamo con quella acqua, sì. E l'hanno chiuso, non ci hanno detto nessuno niente. Che hanno chiuso? Però siamo abbandonati qua a campo, sì, da 4-5 anni, sì, che nessuno non viene a vedere siamo morti o vivi. Ma scusa, viviamo, ma scusami un attimo, perché viviamo troppo male? Sì. Siamo con i cittadini, figli, che vanno a scuola i bambini. Sabaeta, scusami un attimo, ma quanti siete lì in quel campo? Io c'ho elenco vecchio. No, ma quante persone? Quante... 120 container. 120 container. Ma dimmi una cosa, ma l'energia elettrica chi la paga? L'energia elettrica non paga nessuno, comune da quanto ha lasciato questo container, non paghiamo niente. Voi non pagate? Perché non voglio dire la bugia. Appunto, no, infatti è importante non dire mai le bugie. Non pagate praticamente l'energia. Dove la prendete l'energia? Attaccate da qualche parte? La paga il comune? No, dal comune. Dal comune pagate? Cioè voi non pagate niente per stare lì in pratica? No, non paghiamo niente. Luce, acqua non paghiamo. Certo, e come, io non ho capito, perché non andate a cercarvi una casa normalmente come tutti gli altri? E come facciamo che siamo a lavori senza soldi? Scusa, ho capito, cara Sabaeta, perché non lavori tu, per esempio? Quanti anni hai? Io 61. 61, vabbè, 61 ancora si può lavorare, ma perché non lavorate lì al campo? Perché perché italiani non ce l'hanno lavoro, come danno a noi i rom? Ma ho capito, c'è gente che fa le pulizie, c'è gente che ne sì, so. Sì, a me chi me la dà? Io volentieri che faccio questo lavoro e mi affiere, perché io mi piace lavorare. Ho capito, ma... ti piace, però e dunque che fanno le persone lì al campo? Scusami, che fanno? Rubano? Ascoltami, qualcuno anche ruba. Certo. Possiamo dire che non siamo tutti innocenti e che non rubiamo. Non c'è qualcuno dubbio. Ruba un portafoglio. Ma chi non sbaglia, chi non ruba, che rubano migliaia. No, ma lo dica signora, anche in Parlamento rubano alla fine, no? Cioè, perché ci sono indagati queste cose? Ecco. Questi parlamenti, perché ci vedi cosa indagati? Dice, però voglio dire, signora cara, insomma, signora, perché lei non lascia il suo cellulare? Così facciamo un appello qui alla radio della Confindustria, perché questa, cara, è la radio della Confindustria, imprenditori molto ricchi qua. Lei può lasciare il suo cellulare, magari si offre di andare a fare le pulizie da qualche simpatico nostro ricco industriale, va bene? Volentieri. Brava cara, lasci il numero di cellulare. Cioè, signora, tu faresti le pulizie? Stai buono un attimo, lasci io il cellulare. Posso pulire uffici? Vedi, gentilissima, ottimo. Prendiamola qui alla Radio 24. Scusa. Quanto prendi allora? Parliamo a occhi. Basta che mi offrano un lavoro volentieri. Ottimo, vedi. Quanto prendi allora, Sabaeta? Quanto prendi allora? Quello che mi offrano, che magari 8 euro, 10 euro all'ora, direi, no? Basta 10... che ogni mese mi offrano 1000 euro. Sono 1000 euro già. Vabbè, però per pulire, no, per carità. Ma scusa, non ho capito. Secondo te, dentro il campo, quanti ladri ci sono lì al campo? Ma un po' ci saranno, ma insomma, adesso molti ladri, molti ladri. E ascolta, no, questo no. No, amore. Ma che qualcuno ladri che rubano un portafoglio, però stanno in carcere. Chi sbaglia, chi paga? Ma che rubano poi? Portafoglio? Sono portafogli qua a Castel Romano, ti dico la verità. Sì. Solo ragazzi di portafogli, niente altro. Borseggiatori, gente. Esperti in portafogli, dai, abbiamo capito. Esperti in portafogli. Come mai si sono specializzati in portafogli? Perché hanno quel know-how lì. Hanno quel know-how, ma no? Anche i ragazzi ragazzi vanno via, vanno a giostri, si prendono con i ragazzi, anche italiani. Si menano un po', magari. Così non lo so. Vanno a rubare, ecco. Senti, ma vorresti una casa popolare te? Io sì, volentieri. Beh, amica mia, però ti devi mettere nelle liste lì, no? Devi metterti nelle liste di attesa per le case popolari. Io no? Ce l'ho. Io ce l'ho. Cosa? Ho fatto la domanda per casa popolare il 2000, quando è uscito un bando. Beh, questo 15 anni fa ormai. Sì, adesso il 2016 ci hanno dato 18 punti e abbiamo fatto tutte le domande per le case popolari. Fra poco avrai una casa popolare? Speriamo. No, una casa popolare. Ma affittare una casa proprio no, No, niente, no, proprio. E come guarda, fare? Che non sono responsabile, non c'ho lavoro, non c'ho niente, ti dico io. Certo. Ma una casa popolare, quanto io consumo, quello da pagare, posso lavorare e pago. Sì, sono donna pulita. Certo, pulita. Sono donna sincera. Sì, beh, certo. Anche sincera, meno male. Anche da un presidente posso lavorare tranquillo. Sì, tu come da un presidente? Andresti, per esempio, che ne so, a fare al le pulizie anche, a casa del signor Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, per esempio. Ottimo, questa idea, bravissimo, bello, esatto. Conosci il signor Napoletano tu? Direttore Napoletano, Roberto. Napoletano, sì. No, Napoletano, il direttore del Sole 24 Ore. Ha bisogno di ha bisogno di una persona per fare le pulizie a casa. Tu andresti? Questo. Sì. Sì, ecco, vi lascio il mio numero. Sì, ecco, benissimo, lasci in diretta, cara, così magari poi il direttore la contatta direttamente. Ottimo. Dai, 3-3. Sì. 8-2. Bip. Sì, non è che poi porti i ladri lì a casa delle persone. Ma perché? No. Ma per carità, è la mia responsabilità, perché ti ho permesso a 5 anni definitivo. C'ho documenti italiani, c'ho tutto. Senti, ma tutto i Rom lì al campo di Castelromano, per chi votano alle elezioni? Per chi votano? Noi mai non abbiamo tante volte votato, ti dico la verità. Tu hai votato? Invece, questi stati, mio marito ha accompagnato i miei figli per andare a votare e i miei figli non sapevano, non lo sanno, hanno votato Raggi. E perché hanno votato Raggi? Ah, 5 Stelle votano, vedi? Ascolta, non è cattiveria, ma noi non ha fatto male a nessuno. Sì. È come una ragazza, l'abbiamo visto, simpatica, così. Certo. Certo. E i bambini l'hanno votato. Sì, certo. No, Salvini però, non Salvini. Appunto, Salvini no. No, Salvini neanche volta non lo voto. Bravissima. Come lo consideri il signor Salvini? Salvini, sai come? Che ne pensi? Salvini a me non mi ha fatto male nessuno, però non mi piace che parla per tutti i Rom male, perché non siamo prima cosa uguale. Però io voglio dirti una cosa, cara Sabaeta, io credo che è importante che tu voglia lavorare, voglia fare le pulizie. Sì, volentieri. Donna di pulizie, fidatevi. Basta che non è pesante. Beh, come non è pesante? Lavori non pesanti, dici, vuoi fare? No, che alzo pesante cose per quello, no. No, quello, lavori, no, lavori pesanti. Le vetri, stanze. Subito. Lavori pesanti no, per carità, lavori pesanti no. Va bene, ciao amica mia, ciao, buona serata, signora. arrivederci. Ciao, grazie di tutto, lavoro. Lavoro. Vedi, anche gentile, educatissima. Vuoi lavorare? Ma ti dici che vuoi lavorare, ma cosa vuoi di più? Ma vanno a cercare il lavoro. Ma mica ha detto voglio rubare, voglio lavorare, ma è di un'educazione poi incredibile, signora. Ciao, Sabaeta, ciao. Lavoro. Educata. Lavoro. Amico mio, si è proposta pure per fare le pulizie al signor Napoletano. Quello l'abbiamo proposto noi, veramente. Vabbè. Le pulizie sarà a casa contento, del secondo te, il nostro direttore? Beh, se ha bisogno di pulizie, faccia presto. Pulisca là, in profondità, mi raccomando, in profondità. Secondo te, gli fa oggettivamente, gli può far piacere un'iniziativa di questo tipo? Perché no? Scusa. Non chiedo a te. No, ma perché? Scusa, gli industriali italiani, gli imprenditori italiani, e giù per gli rami, fino al direttore del Sole 24 Ore. Ecco qua, signor Platero, che si è palesato adesso. Sì, signor Platero. Ottimo Platero, ottimo inviato. Prenditi la Rom per i lavori a casa tua, invece di prenditi la Rom. Sia uno che è contro Trump, prenditi la Rom, è contro, a spada tratta, contro Ram. Sì, Ram, contro Trump, Platero. Si è presentato qui, è uno antitrampiano, un antitrampiano. Te la prendi la Rom? No, Platero, te la prendi la Rom? Per i lavori a casa tua, te la prendi la Rom? Sì, certo, con cazzo che te la prendi. Parenzo Akbar, Parenzo Akbar. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Cruciani, coincidenza vuole che qualche giorno fa mia madre mi abbia detto: fai il bidet, faccia al muro e capirai cosa significa la vera pulizia. E io le ho risposto: mamma, non hai proprio capito una sega, è proprio per questo che io al muro gli do le spalle. Cruciani, io ho finito sul cesso, mi sono spostato sul bidet, porca puttana, ho finito il sapone, che faccio? Tiro sulle mutande e me ne vado. Ma sì, va bene così. Allora ragazzi, qui dobbiamo dare, caro Parenzo, una notizia esclusiva, grande notizia esclusiva. Esclusiva, sì, esclusiva. Abbiamo qui, signori, innanzitutto Mario Platero. Beh, uno dei questo... più grandi antitrampiani che esistano. Ottimo, tra ottimo. I giornalisti italiani. Diciamo la verità, caro Mario. Molto bene. Tu sei molto antitrampiano, diciamola tutta. Non è vero, anzi, sono amico di Trump. Ma il mio vecchio amico Gaetano Lovatelli Ragona era suo intimo amico, usciva con Ivana Trump, facevamo cene tutte insieme. Cioè tu non è che grande... non conosci le colf. No, io faccio romene. Giornalista. Tu conosci appunto Lovatelli, gente con i doppi cognomi, tripli cognomi. Lovatelli, ma un romano, insomma, faceva però lo scaricatore di porto perché doveva farsi i muscoli, quindi capito? Ma tu sei mai stato nella Trump Tower a casa di Trump? Sei stato qualche volta? A casa ancora no. Ancora no. No, ancora. Ma quando Platero, era... scusami, quando è l'ultima volta che hai visto un povero oltre che in un film? Ma io sono guardate, allora vi faccio vedere, sono io povero. Guarda. Che c'hai? C'hai i pantaloni rotti. Cioè, mi sta mostrando il culo. Ma nel caso di Platero il culo con i pantaloni rotti, praticamente. Ma è chicchissimo. Cioè, i pantaloni tutti rammendati. Cioè, si è girato rivolgendo è un il culo. Ma è una sciccheria unica, con questo, Platero, con questo tight. No, non ha un tight, no, con questo gessato. Con un gessato, con il, praticamente con l'iso sotto. Con tutto l'iso sotto, quasi col ma lungo. No, ma è rammendato. Cioè, ormai praticamente lo stanno per cacciare dal Sole 24 Ore. Perché è come portare i caspi col buco. Facciamo partire una raccolta di firme. Perché, ma la cosa incredibile è che lui ha paura adesso perché deve tornare in America. Notizia, questa la che notizia dai, è questa. La tu lo sai dove è nato Mario Platero? Ha il passaporto italiano e in realtà anche quello americano. Però lui dice che al custom là non si fanno in questo momento, sono anche abbastanza allerta. Caccia, no. Tu sai dove è nato, signor Platero? No, non dove è nato? A Tripoli. Dillo. Sono nato a Tripoli. Sono nato a Tripoli, Libia. E la Libia è uno dei paesi? È uno dei sette paesi che sono inclusi amico nella mio! Lista. Quando torni lì, adesso quando è che torni? Domani, dopodomani? Io sì, adesso torno subito. Torni domani. Subito, praticamente. Rischi che ti fermino lì, confine. C'è questo rischio, perché quelli... Dunque, qual è la cosa? Ellis Island. Che i controllori della dogana, i custom officers... Vedono Tripoli? Che sono molto cattivi perché hanno potere mediamente ignoranti anche, e hanno credo. potere assoluto, cioè loro possono decidere, certo. Che per cioè, qualunque tu praticamente ragione te la stai facendo sotto perché torni, no, torni. Io non me la sto facendo, io tornerò, ma io sono un cittadino americano e poi però c'è scritto Tripoli, ho capito Tripoli. Ma allora facciamo un altro accordo, se davvero mi fermano e mi arrestano per... no, ti arrestano, no, ti fermano, mi fermano e ti fanno stare qualche controlli. Ora allora, qualche ora lì come allora, io ti chiamo Mr. Platero. Why is it Tripoli, Libya? Yeah, what can you tell us? How come? Who are you? Who are you really? I'm Italian. Italian, American. Why are you born in Libya? Why are you born? Allora, a quel punto ti do un'altra esclusiva. Qual è l'esclusiva? Ti chiamo dal posto di fermo e facciamo una diretta dal custom office. Beh, dipende e così organizziamo una protesta sia lì Che ma tu? Per me farò benissimo farti entrare. Ah, benissimo, allora, stupendo. No, no. Allora, per me no, e sicuramente gli ascoltatori la organizzeranno. Questa nato protesta. A Tripoli. Ciao Mario, ciao. Siamo tutti con te. Allora, ragazzi, io chiamerei, anzi no, prima andiamo con Roberto da Milano. Vai, Roberto. Roberto. Oh, pronto? Dimmi. Allora, vai. Sono di fede fascista. Di fede fascista. E quindi volevo comunicartelo. D'accordo, così segnaliamo un'altra persona, benissimo. Cioè, non ho capito. Allora, tu vuoi riprendere il discorso prima che facciamo con il signor Joe Formaggio, Joe Cheese, no? Esatto. Cioè, tu sei praticamente anche tu, ti dichiari, io sono fascista. Cioè, rivorresti di nuovo... Io sono di fede fascista. Ma che vuol dire di fede fascista? Non è una fede. E allora? Sì, è una fede, come no? È una fede. Vabbè. Essere fascisti è una fede. È una fede. E poi vorresti anche Mussolini come di nuovo. E ti posso assicurare, sì. E la dimostrazione è l'incontro che abbiamo fatto il 30 di settembre 2016 a Predappio, pure. Dove ci saranno state almeno 100.000 persone. Ma non credo proprio, guarda, sì. Cioè, non è, cioè, quelli sono i numeri c'ero. Come nei comizi, come nei cortei, no, cioè, no, 100, no, ma no, che 100.000? Io c'ero e vi posso garantire che in Italia ci sono milioni di italiani che rivoterebbero Mussolini, perché il bene rivoterebbero che chi in ma in quale contesto ma rivoterebbero, chi rivoterebbero Mussolini nel momento stesso che potesse ovviamente proporsi come nuovo primo ministro in Italia, visto sì, che l'altra volta non lo ha eletto nessuno, presidente però. Della Repubblica Giorgio Napolitano, sì. Che dovrebbe essere arrestato per ciò che ha fatto. Un fascista che dice che Napolitano dovrebbe essere arrestato perché ha nominato tre primi ministri senza dare la possibilità al popolo sovrano italiano di andare a votare, non ultimo Lorenzo, chiami il nostro. Ma voglio capire, questo costituzionalista sta facendo un comizio di una scopa che conta meno di una scopa per guardi pulire gli uffici. Non siamo a Piazza Venezia, meno di una scopa per pulire gli uffici. Non siamo a Piazza Venezia, tanto è vero che comanda ancora Giorgio Napolitano in 48 ore, cosa perfetto. Che non è mai successo. Sì, per fortuna comizio in corso, attenzione. Aver nominato dica anche a noi magari volta nominato. Non è l'istituto Luce questo qui. Tripoli, bel suol d'amore. Senti ancora. Tripoli, bel suol d'amore. Continuano a rimanere. Siccome voi non siete democratici per niente, a noi non siete, voi non siete a democratici noi. No, per dicendo niente, a noi, non ha capito. Perché nel momento stesso a noi. Che al dottor Lorenzo qualcaduno non gli suona bene qualcheduno che gli dice qualcosa che non gli sta bene, ma siccome è un talebano. Ovviamente si mette a ridere, a scherzare e a dire puttanate come quelle che negli Tripoli, ultimi sei mesi. Lei si è appena proclamato fascista. Viva a proposito di puttanate. Sempre viva il Duce! Ma questo è un reato. E se voi fate un sondaggio, incomincio a chiedere quanti fascisti ci sono in Italia. Credo che per la zanzara sarebbe una bella iniziativa. Com'è Roberto? Tripoli, bel suol d'amore. Viva il Duce! Ma è pazzo sempre questo. Viva il Duce! Grazie per il tempo che mi avete dedicato. Abbiamo trasmesso all'ospedale. Abbiamo trasmesso l'Istituto Luce ha ricordato gli anni 30. Esatto. Allora, caro David, io chiamerei il signore della Lega, tanto per restare in tema, come dire. Ah, sì, beh, il passaggio velocissimo. Il signor Mazzolini, credo, un responsabile sicurezza di non so quale regione, eccetera, che è incazzato come una biscia, molto arrabbiato per questi corsi di sci ai migranti. Cioè, per i corsi di sci che vengono gratuitamente offerti ai piccoli migranti, sono 16 persone. E minorenni che vengono da profughi, che vengono da vari paesi, corsi di sci gratuiti da parte di una cooperativa. Questo signore Mazzoni dice che è una vergogna, che allora bisognerebbe dare i corsi anche agli italiani, eccetera, eccetera. Sentiamo il suo autorevole parere. Sentiamo, telefoniamo, ragazzi, dai. Pronto? Sì, Mazzolini? Sì. Beh, amico mio, come andiamo? Sono Cruciani. Teniamo duro, andiamo avanti, andiamo avanti. Ho visto, Mazzolini, che addirittura il caso degli immigrati che fanno lezioni di sci a gratis è arrivato addirittura al Parlamento europeo, lo avete portato all'attenzione dell'Europa, no? Ma giustamente, perché il principio è uno, no? Qual è, il denaro pubblico viene speso per accogliere queste persone che secondo me il 97% non scappa da nessuna guerra, ma viene qua perché vengono mantenuti dal sistema italiano ed europeo. Questi soldi vanno spesi, se li vogliono spendere per questi ragazzi per farli fare sci di fondo, sci da discesa, gratuitamente, lo devono fare anche i cittadini italiani. Il principio è morale. Se i cittadini non europei arrivano qua da un paese lontano, non possono fare lezioni di sci, tu dici? Possono fare lezioni di sci con i loro soldi. Se li paga l'Europa, scusa, se li paga l'Europa perché li vogliono fare un corso di sci, che i poverini scappano dalla guerra, bisogna fare il corso di sci perché li rende più integrati. Il corso di sci noi lo vogliamo, lo vorrei gratis anche per i cittadini che non possono, italiani. Ma ci saranno pure, ci saranno pure i corsi di sci? No, non ci sono, ci sono certamente i corsi di sci, sono i corsi a pagamento. Ho capito, ma sono 16 immigrati, sono 16. Sì, ma questa è la punta dell'iceberg. Dello spreco del denaro pubblico europeo. Ma nessuno sa trae nulla ai bambini italiani. La smetta con sta panzana. Ma io le sto dicendo. È una panzana. No, ma scusa, non assolutamente no. Ai bambini non vengono tolti soldi ai bambini italiani. Ai bambini italiani non viene dato niente. Non viene dato a famiglie che non possono portare i bambini a sciare. Stiamo parlando di quanto? Di 10? Di quanto stiamo parlando? Di 10 lezioni di sci? Di quante stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ma quante famiglie di disoccupati? Ma di cosa? Ma certo, stiamo parlando di questo. Ma cosa c'entra questo? Contrapposto a quest'altra cosa, cioè, cosa c'è? È una questione di principio. Ma io non contrappongo, come no? L'ha fatto fino adesso. Niente. Se l'Europa per denaro pubblico, anche italiano, per portare al corso sci i bambini o a nuotare in piscina gratis, che lo faccia, ma lo faccia anche con i bambini delle famiglie italiane che non possono permetterselo e devono essere aiutate. Il dato di fatto è che questo signore vuole impedire a 16 bambini di fare un corso di sci. Primo, 16 bambini, punto. Il colore della pelle, questo è il punto, e tira fuori questa buriana. Il secondo atto della storia, possono fare mamma, il corso che vogliono continuamente, possono anche ma sei contro questo corso? No. Il principio non è il corso, il principio è che viene pagato con il denaro pubblico anche italiano, e questo non va bene. E ripeto che sono privilegiati, sì o no? Ci sono corsi di tutti i tempi, ma non sono privilegiati, c'è una discriminazione nei confronti dei cittadini italiani. Ma appunto, sono privilegiati allora. Ma questo è solo un esempio, potrei fare altri 100.000 esempi di quelli che fanno il corso di nuoto, ci sono bambini che non possono farlo perché i genitori italiani non hanno neanche l'occupazione, magari vanno all'asilo e mangiano con i soldi del nonno e della nonna. Cioè tu dici, è semplicemente un modo per finanziare delle cooperative, tutti questi corsi eccetera. Guarda, secondo me così a spanna mi sembra che siano un po' un gruppo di amici che gestiscono e spendono il più possibile i denari che prendono per questi minorenni, che ricordiamo costano 80 euro al giorno. Io non vedo nessuna contrapposizione tra i bambini italiani e questi 10 bambini che faranno alcune ore di lezioni di sci per imparare anche la disciplina, peraltro. Quindi lo vedo come una cosa formativa per loro e non una cosa che toglie ai bambini bianchi italiani. Messa così, come la mette lei, è una sciocchezza. Perché lei gli piace giocare con le parole. Non gioco con nessuna parola, è lei che ha tirato fuori il problema. È lei che ha tirato fuori il problema. Ma morale, ma problema morale di che cosa? Vedi, ancora. I bambini non possono portare i bambini a sciare, questo chiedono, ma scusate, ma perché queste persone che arrivano da lontano, li aiutiamo bene, ma aiutiamo anche i cittadini italiani che hanno difficoltà e problemi. Ciao Mazzolini, ciao. Grazie, ciao. Mazzolini di Fiori. Allora, dove andiamo? Lorenzo, provincia di Varese. Vai Lorenzo, vai. Quella Giuseppe Cruciani. Vai, dimmi Lorenzo. Vorrei fare un intervento sul bidet. Il grande tema del bidet. Oggi l'abbiamo trattato poco in realtà, purtroppo. Troppo poco, sì. Perché sì, troppo poco, perché ci sono un sacco di telefonate, in realtà un sacco di mail che mi sono arrivate. E purtroppo, siccome so che Parenzo è refrattario al tema del bidet, mi faccio troppo condizionare. Molto. Invece il bidet è fondamentale perché tutti fanno il bidet. tutti, ecco, dal Presidente della Repubblica, anche Mattarella farà il bidet la mattina, no? Cioè, no, oppure c'è un inserviente del Quirinale. Mattarella, no, fa il bidet o no? No, non credo che ci sia. Il sondaggio di Libero. Il sondaggio di Libero. No, ma scusa, Mattarella ci farà il bidet. Allora, è curioso, sarebbe divertente sapere se lo fa con la schiena al muro, ecco, con la faccia al muro, usa le mani, non usa le mani. Anche Mattarella si pulisce il culo, scusi. Detto con tutto il rispetto al Presidente della Repubblica. Però è evidente che anche Mattarella si pulisce il culo, o no? Ma è un'immagine che non mi sono mai posto. Ma no, ma non è che lo dico in senso... No, ma è una di quelle cose. Non lo voglio mai offendere, pensato. Tutt'altro. No, cioè, no. Lo fa Lorenzo Davarese, il camionista amiconostro, e anche il signor Mattarella. Questa è per forza. Dunque, il bidet è un grande tema popolare. Molto come si importante. Fa il bidet? Cosa bisogna fare? Cosa bisogna utilizzare? Le mani, la posizione, no, ecco, bravo. Il bidet non va fatto con la faccia al muro, con le spalle al muro. E come? Scusami, ma due possibilità ci va sono. Va inseguito? No, va, no, caro. Non fondo, sono tre le possibilità. E qual è l'altra possibilità? Scusa. Va, il bidet va eseguito mostrando una spalla al muro. Ma scusa, ora destra, la sinistra è indifferente. Ma se c'è il muro, come un fai contorsionista, a metterti? Però esatto, come fai a metterti? No, cioè perpendicolare al muro ti vuoi mettere? No, parallelo al muro, perché è il tuo quarto di circonferenza lungo delle liste del bidet. No, amico mio, parallelo al muro è in qualsiasi posizione, sia con le spalle o di fronte al no, muro. No, ma ti devi mettere, allora, scusa, come tu hai davanti, come dietro, tu, c'è, scusa. Scusa, dietro il bidet c'è il muro, tu ti metti col culo completamente puciato nel bidet, hai capito? No, ma scusa, ho capito, ma che c'entra? Come che c'entra? Perché è così che va fatto. Ma come solo perché una tu... spalla verso il muro? Cosa c'entra? Certo, perché tu ho capito, solo con una spalla al muro. Sì, ho capito. Accucciato laterale, messo laterale. Così? Ma laterale, giusto. Ma sai perché va fatto così? Perché tu immergi completamente il culo nel bidet. Quindi questo è autopulente. Non devi toccartelo con le Scusate, mani. Scusate se mi sono un attimo allontanato dalla discussione, ma non riesco tecnicamente a entrare nel merito. No, io invece ho capito. C'è il bidet, dunque adesso fai un bidet col disegnino, con la penna, no? Tu puoi metterti col culo, con le gambe appoggiate in maniera normale, laterali, oppure tutte e due le gambe messe su un lato, cioè tu affondi il culo dentro il bidet e sei con una sola spalla rivolta verso il muro, ti metti lateralmente, dicevi Lorenzo. Scusa, che vantaggio ha questa posizione, caro Lorenzo? Ma le mani non vanno usate, eh? Voi non dovete usare le mani, con le mani non dovete toccare quella zona lì. Ma scusa, voi come dovete affondare bisogna che lo riempi affondare d'acqua. Il culo nel lo devi riempire d'acqua prima. Lo accetto, certo lo riempi d'acqua. Affondi, però non fai niente, non è che No, non devi fare niente, non devi toccarti. Ma poi scusa, se c'hai ancora residui di vario tipo, come fai? Non ce li hai più perché la vetta si scioglie nell'acqua. Vabbè, okay, ma ci vogliono provare, ma ho capito provare. Cioè tu dici prima pulirsi con la carta pochissima, però attenzione la carta va usata pochissima, però ci sono molti difetti in questa cosa che dici, ci sono molti provate, molti io ho sempre fatto così, provate voi, molti dubbi. Vabbè, ho capito, allora c'è il culo sempre sporco, per carità. No. Ma quanto ci metti? Stai là, ti si deve sciogliere tutto, un inferno. Sì, allora Parenzo, che pensi di questa situazione? Che pensi della situazione, diciamo, di Lorenzo della provincia di Varese? Mi pare che grazie a Dio il cronometro segna le 20:51 nello studio regia di Roma, però le note di Riccardo Bucciero, Bucciero non c'è più. Scusami, di Riccardo Poli segna qui chiusura alle 49. Ergo, andate tutti quanti a quel paese a fare in culo. Si può anche aggiungere, no? Perché stavate parlando di bidet, quindi non volevo rimanere Lorenzo, in tema. Ritorniamo. Ciao, Cruciani. Devi smetterla di insegnare la gente a fare le cose schifose. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.